sul funzionamento di tutto quello che prende, che non prende, insomma, che Eugenio ha ancora dei problemi, insomma, deve ancora mettersi un po' in linea, diciamo, e così via, vabbè, con un po' di pazienza, piano piano, ci mette a posto. Va bene, Eugenio, vai. Thank you. possibile averla. Adesso non so io se datelo in radio o datelo come. È a Borore lui, Emi, è a Borore, capito? Proprio a Borore lui è Albino, capito? Se no glielo mandiamo, comunque lo puoi telefonare. Poi dice, te l'ho detto io, voi alleviate un po' di questi disturbi dall'ara 48 che invece, e dagli appena appena di radio e di coso, e te lo fa lui, capito? Adesso io ne ho un paio di questi numeri di Albino, hai capito? Ma io se voi quando lo sento ne parlo e glielo dico, capito? Che glielo mando e o ci passi, se è tempo di passarci lì a Borore. L'altro giorno era Norbello ed eri lì vicino, lo vedi, eri a due passi da lui. Tieni che è caduto dall'acqua bassa. Emozionato. Tieni, oh, ma poi tanto nel campo non va bene, capito? Poi devi fare la zetta, l'antenna, una volta che la monti la 2001, fagli la zetta di Zorro devi fare. Sta già montata, no? L'hai incrociato l'altro giorno, quando si è spostato di 200 metri e la giubbetta la 131, non è più. Perché non aveva massa? Dai, qua c'è quello, come si chiama, Alberto, quello che faceva chiamare Internation, ci ho provato in tutte le mani, tutte in risina, solo un parafango era il ferro, abbiamo messo nel parafango, gli ha aggiunto un altro capetto di massa, e gli ho fatto un poco di cosa, niente da fare. Se tu l'antenna la mettevi dritta, da battere nel parafango da tutti i via, stazionare a 1000, la coricavi in avanti e l'allontanavi dalla resina delle... perché era alto il campo, no già, l'allontanavi da lì e sparivo le stazionare, l'avvicinavi e diminuiva la recessione, hai capito? La mettevi dritta, no? E anche a 10 cm dalla cosa, quell'antenna spuntava appena appena sopra, si usciva di... No, arrivava giusta, non superava la testa del campo, hai capito? Metteva il parafango davanti, gli dava impedimento, non c'era rimedio, Gli ho fatto una zetta per farlo scendere a 3 di stazionari, una zetta in avanti gli ho fatto, alla 2001, per riuscire a 9 di stazionari. E è scesa a quanto? Da dietro, non ti vuole tracciare dal vino. Se è il numero di telefono ti devo dare, capito? Il numero di telefono. Il numero di Gigi, ce l'hai, il telefono a Gigi te lo dà. Lo so, G. Ha detto se il radio glielo dai, ma non mi sembra giusto, perché è di un'altra persona e le violazioni della privacy. Il numero di Gigi non ce l'hai. Oh, pronto sia a scrivere. 347-063-5884. Albino, vedi che te l'ho dato io il numero, poi ho 300 e te ne do anche un altro perché ne ha due. Oh così, agita un attimino. Allora, 345-73-90-917. E anche io, dai, sono arrivato. Scusate, dai, mi sono fatto finire questo passaggio. Salutoni, dai, ciao Gianni, ciao Sandrino, ciao Gigi e ciao a tutti quelli che stanno ascoltando, dai. Stiamo iniziando, ok? Con tutto, buon fine settimana e buon proseguimento di queste ore. Sentiamo al più presto, ciao ragazzi. Ciao a tutti e due, dai, buon fine settimana a tutti e due. Ciao Gianluca, ciao anche Eugenio, dai. Avanti, Gigi. Ciao Gianluca e ciao Eugenio, dai, alla prossimina. Ma come sta uscendo questa cosa, Gianni, questo microfono? Stavo proprio per dirtelo, che ha una modulazione molto chiara. E l'ho regolato così, ma ho detto, sto parlando in istante, ma già va bene, sì. Va bene così, se avessi attaccato una cosa, la succedi. Così cos'è successo, Gianni? Cos'è così? Appena appena lì, ma era meglio prima, sinceramente. Di solito ecco ti aiuta, però prima la radio era molto bella, chiara, tutta la tua voce, dai, come verticale. Positivo, dai. Va bene comunque come microfono, va benissimo, no? Amplificazione, va bene così. Sì, sì, è chiaro, non è prepotente, non disturba, ecco, è chiaro. Diciamo che microfono è questo? MB5, uno di quelli lì, e l'ho regolato così le tonalità, poi non lo so, io ho messo così. Modificato? No, io non l'ho modificato, perché modificato? Non ho modificato nulla io, no, è così, No, lo sto chiedendo, si sente molto bene, dai. La capsula forse devo cambiare. No, non lo so, non so che la capsula è quella verde, ho bisogno di controllare. Vabbè, comunque esce bene, la tua voce si... Sto dicendo, dai, è meglio di un microfono palmare, meglio questo microfono da tavolo. E ci sono dei palmari che pompano forte, tipo salenza, ci sono dei palmari che valgono. L'MB2, quello lì è molto buono, l'MB3, sempre della Tanner. Sono tutti i microfoni che pompano forte, che hanno la capsula ceramica. È positivo, dite. No, io l'ho regolato così, è quasi, mi ho detto regolarlo, questo è a 3, il volume è a 3 e il coso stesso, il tono è a 3, tutte e due a 3 sono. Io invece a 2, l'ho regolato il volume a 10, quello del mio microfono. Tutto al massimo, come si chiama? No, così ce l'ho, guarda, se lo aumento appena appena, sono aumentato a 4, guarda, ho aumentato qualcosa, questo è il volume però, Veramente troppo a peggio o male? Così è a 5, vedi, così è salito a 5, peggio però la voce, o meglio. No, è più presente, dai. Forte o più presente? No, non lo so. Così è a 6, guarda, era a 3 prima, così è a 6. Sì, aumenta di un pelino, non tantissimo, capito? Un pelino aumenta. Quindi tutte le regolazioni che hai fatto si vanno tutte bene. Allora, adesso te l'ho portato a 7, guarda, adesso è a 7, Gianni. Tira 8, non so come sentire qui, tira. Così è 8 già, così è 8. Dopo va a 9. E così è, ma dici non ce n'è qua, 9, si dà 9 a rito. Così al massimo. E va bene anche così, dici. Ti dico che anche così va bene. Ma se ti sei fastidioso la metto come la prima a 3, se ti sembrava migliore, cosa dici? No, non è fastidiosa, se no ti avrei detto, è troppo forte. No, è una radio che va bene, che non dà fastidio di niente. Beh, se non lo so, io non mi sento e non lo so, se no io la passo e la metto a più bassa, 5, 4, non lo so. Beh, io sono in cuffia, ti sto ascoltando in cuffia, e a me fastidio non me la dico la verità. Oh, va bene, presente, forte adesso, bella forte, chiara, ma non è di quella radio che danno fastidio. Oh, adesso l'ho riportata a 3 già, vedi, l'ho riportata a 3, vedi un po', è a 3 come era prima. E non è che ha cambiato assai, ti dico la verità, cambia poco. Gigi! Sì, Sandro, dimmi. Resistenza là? E l'ho cambiata e ce l'ha Roberto, non ha funzionato. Non ha funzionato, ce l'ha lui, gliel'ho dato ieri. Ho capito, e allora c'era qualcos'altro? Sicuramente. E il tono va bene così già, il tono? Sì, è la tua voce. La tua voce per quel microfono lì da cavernosa, riesce a compensare gli acuti coi bassi, capito? Quindi è un medio alto buono, va. E io lascio tutto così, dai, non me ne sto a 3, lo lascio a 3, non me la putti nuda, lo lascio a 3, è a 3, no, anzi è a 3 è il tono. Sì, già va bene. Bene, avanti Sandro Chiolo. Sì, va bene Gigi. Va più che bene, ma il macchine che te l'ha parato ce l'hai tutto aperto? Positivo, tutto aperto, però l'ho fatto regolato dall'interno io, perché al massimo andasse bene, perché vuole abbassato il macchine dell'apparato? No, per vedere un attimino, magari se non ce l'avevi tutto aperto per aprirlo di più, magari spingeva di più, ma già va bene. Positivo. dispositivo, l'ho abbinato a questo apparato qua, dai, a questo qua l'ho abbinato. Già va bene, dai, già va bene. Diciamo che ti fa la tua voce, diciamo, in verticale, dai. Ciao Gian Paul. Ciao Gianpa, buonasera, ben ascoltato, buon estivo pure a te. Come ha fatto Pirangelo, che ha detto c'era Portogallo, ha detto attento amico il Portogallo, e Pirangelo ha detto Portigali. Amico, c'è Portigali che ti sta chiamando. Sì, ahia. Io. E vedi, a Giovanni che ha dato l'unico della risata. Secondo quella del Barra Agricola che il padre nel formaggio maccio gli metteva anche un po' di doppio ruglio gli metteva. Sì, ma Barra Agricola ha detto parecchie. Una volta sta a fare il mio cognato che lavora, come si chiama, in un'agenzia immobiliare, no? E mi ha detto, ma tuo cognato sempre mobili sta vendendo. Non è mai venuto per fare altri mobili, lavora in un'agenzia immobiliare, non è un negozio di mobili. Beh, mobiliare per me, per mobili no. Oh, scusate, un attimino, riprende già un attimino, scusa. Facciamo entrare a Giampaolo, che così almeno lo facciamo parlare, che è detto tutta la sera, è entrato adesso, e lo facciamo parlare. Avanti Giampaolo. Thank you. sempre sì. Io già li cambio ogni tanto, mi sapevo che ho fatto, ma di solito uso questo, uso il Galaxy. Sì, non me lo ricordo più se era 7 o quanto era. Comunque già sei sempre arrivato bene, Gianpa. Meno male ti ho sempre ascoltato, eh. Quelli che hai capito che parli per te? No, li ho fatto tutti i capelli. e basta. Vabbè, tutto bene, ciò che finisce è bene, è meglio così. Quello si va da andare a ballo, sono andato da tutti e gli ho detto, adesso basta, gli ho detto. Le antenne le ho comprate io, ce l'ho messo io, le partiture le ho messo io, adesso basta, ho detto, non la solita, per l'economia. Dove ho detto, se avete problemi, mettete i soldi in tasca, vi presentate, e io faccio da voi, se no ho detto, andatevi e basta. A un certo punto, e non è possibile. Allora, fa proprio un conto. E stavo prendere un culo vaffero. Chi è la fabbrica? Avanti. Luigi. Ah, lui tu sì. Tu sì. Prima no. Prima in basso basso. Pensavo che fosse la buona fuori addirittura. No, ho cambiato su un altro baracchino, perché stavo è un cibo o no questo, se mai. Cosa stai uscendo? Guarda, uscivi come se fossi un'altra tomba. E ho cambiato un'altra, ma sempre quello, forse c'è qualcosa che sta mandando. Non lo so, se comunque adesso sta andando. Adesso sì. È diverso da come era prima, il primo baracchino che c'era prima. Ma sono dati un seme lui. La notte è diversa, lui è più bassa. Adesso cosa è successo? Più alta la radio. Beh. Adesso sì tu. Perché era basso di radio, ascolta a me. Va bene così o devo sollevare qualcosa? Io, per me va bene, cosa dici tu? Va bene, però se un microfono amplificato è ancora amplificare, perché sembra un microfono normale, il discorso è quello. Cosa devo fare per amplificare? Il tono devo girare? Non lo so. Metti il coso e mi tocca la manetta e poi ma si chiama la manetta e quel baracchino, perché non è che stia amplificando. Se c'è l'MW5, anche se vedi il tono, diminuisce l'amplificazione perché ti dai dei toni alti e quindi più potente devi mettere i toni bassi, se fosse quello. Non lo so, adesso ho girato qua il volume, se l'ho fatto, vedi un po', se l'ho fatto il volume. Ecco, adesso sei tu, questo è. E ti arrivi. Lascia questa caccia così non toccare più niente. Il tono l'ho toccato, il tono era 3, ho messo a 3 e mezzo, capito? Sono così. Sono l'aria 2. No, sono così, sono toccato, sono così, non toccato più. È troppo alto. Che è troppo alto, va bene così. Ciao, va bene così. Come il coppa, va bene così. Lascialo fare così. Va bene. Questo, questo, questo si va da chi c'ha le cose sue. Questo va bene adesso così. Ehi. Può parere che è troppo alto, io sono in cuffia che ti sto ascoltando, è un po' fastidioso. Se fosse stato più basso, appena sarebbe stato meglio. Guarda a 5 Gianni, adesso l'ho messo a 5. Questo è anche troppo basso. Mettila appena di più. Adesso è a 7, guarda, a 7. Io penso che così vada bene lì. L'altra cosa è troppo forte, se sei in cuffia ti rompe. Sei in cuffie, il coso è quello, ma siccome se lui lascia l'amplificazione che c'è e se c'è l'MPU più 5, regola il tono, abbassa per la tono e si è a posto, mettoli lì, se è troppo alto abbassa. Poi c'è l'MPU 5, quindi abbassa il tono appena, non è che sia un problema. No, ditemi un po', se va abbassare il tono ancora un po'. Lascialo così, va bene così, non toccano più, Non ho toccato nulla, a 7, Andrea, a 7 il volume, a 2, no, a 2 e mezzo il tono, a 2 e mezzo il tono. Lasciamo così allora. È forte. Abbasso l'altro mezzo cosa, aspetta. Ma se più allora sei, fa come vuoi, mi ascolta. Allora, guarda così, così ho abbassato un po' quello delle mitigate a medio. Del baracchino, vedi un po'? No, non va bene. Solleva la macchina e manetta. Ricordo una cosa, la macchina vuole sempre la manetta. E il microfono devi abbassare. Non mi contare come fai tu. Ma sto usando un apparecchio con l'ecco. Quindi devo in pratica mettere. Il macchina e la manetta deve essere abbassare il microfono. Appena appena, e sei a posto. Allora, l'ho abbassato da 7 a 6. Vedi un po', adesso siamo a 6. Ma così va bene. A me non mi dà fastidio, sono in cuffie. Il problema non ne ho. Poi faccio abitudini ben alti. Vabbè, per me non sono fastidiosi perché sono lontano, però per Gianni magari è più vicino che sono fastidiosi. Ho capito, per ogni tipo di baracchino bisognerebbe fare le regolazioni di peso. Prima per là ce l'avevo di peso, questo ancora di peso. Comunque va bene, va bene, va bene, va bene. Comunque questo è normale, 4 watt, 5 watt, il baracchino, va bene, che bene. Va bene, va bene, non è che facciamo un cavale, è perfetto. Fabrizio, dimmi. Per favore, come sta uscendo questo? 9,5 e 5 a bomba. Perfetto, con gli altri. Ehi, capo, no, il tono ce l'ha due. Sto usando lo stesso microfono, sto usando Gigi. Ciao Gigi. Non sono d'accordo, la verità non sono d'accordo, ma non ho detto niente, perché è uguale il microfono. Solo che la seconda timbrica che c'è è diversa, capito? Quindi da i toni alti per i bassi. Quindi deve regolare la pena sui toni. Ma va bene così come quello di Luigi. Non è solo la timbrica, sono cambiate le capsule, i cerchi, sono modificati. Non è solo la timbrica. Ti sembra se. Io c'ho un altro, c'ho un baracchino, dipende anche dall'apparato lì che cava, adesso io ne ho messo un altro ancora, però adesso ho fatto un lavoretto io di mio a questo microfono, eh. Io ho fatto un lavoretto di mio Giampa su questo microfono. Questo è un altro baracchino che invece è ancora più potente, prima. Questo è un altro ancora, stavo provando su questo che è più basso, e questo sono 5 watt e disturba di meno, capisci? Poi noi la cosa la fai da molto diversa, mi fai molto da un'età, non vago mezzo desaterami. Adesso va male, c'è il sibilo adesso quando parli, c'è anche il sibilo. Allora parliamo diversamente, con la voce appena più chiara, e la tonalità la cambiamo nuovamente. Sai cosa mi sembri così? Ma fa il culo. C'è la voce finita non vai. Un attore mi sembri. Fine è da femmina a me. Cazzo, ma fa culo ti ha detto. Oh, tu devi sapere, chi era entrato Luca adesso? Tu devi sapere che lo scherzo che ho fatto un giorno in quella voce lì a come si chiama? A Vera 1, era Falchetto. Cazzo, tu devi essere stata la prima di culo a cose, voleva venire a ciapparmi a tutti i costi, E no, poi gli ho parlato io, gli ho fatto la voce mia, non ci ha creduto lo stesso Giampaolo diciamo, Pier Paolo, non ci ha creduto lo stesso, Oh, sono ancora in crisi, cazzo, dove sono andato è nuovo, non funziona più, Ugo Sconti l'ho trovato, Pompo. Allora, gli opporti lo fai cambiare, come ti ho detto io stasera, così siete più tranquilli, più tranquilli, sono indietro. Ma la sera è aperto, No, stasera no, lunedì è aperto. Sono sicuro, invece c'è in cose di fretta, cioè, in cose della tariffa penso che sia aperta secondo me, altro telefono a vedere. È chiuso, cazzo, te lo concedo io. È sempre stato chiuso per il Natale, non mi hai fatto nulla. Di sabato è chiuso tu io. Ci vado lunedì e glielo consegni. Quello del salatore dice, guarda che il salatore non funziona, l'ho acceso e non accende, dici, basta. No, c'è un colore sul originale, non l'ho acceso, ha cambiato colore, cioè si è bruciato praticamente, no? Il colore si rovina. Ma quello che è, comunque dici, funziona, cosa devo fare, dici, mi faccio il salatore, dici, glielo consegno e basta, se non mi cambia, e non ho altro. Se non ti dice che c'è stato qualche sbatto di tensione, qualche cosa, c'è un po' di ricusissimo. Sta continuando già, io l'ho acceso, vado a scaldare, vado a prendere il saldatore e non va più. No, assolutamente no. Non è per nulla, lui non lo cambia. Perché c'è una garanzia, c'è qualche cosa elettronica, almeno un mese di garanzia, 2 mesi, un anno. Io mi virare. Però per la cinese lui, come fa scaldare, certo, pum, pum, fumo, fate a spegnere il contattore, salva vita, vabbè, si spegne da solo, poi sono andato correndo a vedere se c'era aspetto, perché c'era quello fuoco tutto. Però mi sembra un saldatore che mi devo salire a rifilare le cuffie, che casino, mamma mia, va, non so come ti fa. Che non è che faccio vedere un saldatore e saldi, ma come per voi. Non c'è vero, Bubu, non puoi saltare morto, no. Picchia, stiamo a prendere un malato adesso. Come vuoi, io sono mi stai normale, qual è il problema? Mica te lo succede sai oggi, no? Sai, domani sta domani domenica, quindi, è chiuso di vuoto, no? Io vedo che tocca pagarti da bere. Ma fa culo, cazzo, scusa. Vieni qui e va fa culo. Domani tocca pagarti da bere. Ma, ascolta, capigli in culo, sì o no? Vieni qua, ti metti se non torni, fai cosa devi fare, poi me lo torni, devi fare una bere, cazzo. Se per questo ti pago la bere io, al limite, vieni a casa e ti offro la bere io, non costa niente. Sono le lattine, non la capo che sia, boh. Io faccio gli anni domani, ecco perché. Ma non è un tuo discorso, scusa, vabbè, fa quello che vuoi, facciamo gli anni, prendiamo una bottiglia di spumante, costa un euro, e ce la dobbiamo tutte assieme. Ho preso una bottiglia di Rocca dei Forti, all'Assise, in offerta. Ho pagato 3,50, 4 euro mi sa. Già conta poco, allora, visto, con la crisi che c'è ormai. Siamo a posto. È in offerta. Io la bottiglia di Blacchetto, spenderai, non so, 7, 8, 10 euro. Almeno è preso una bottiglia di Blacchetto, 15 euro. Ferrari, Mancini, sono il migliore. Positivo. Ho montato un iPod, un tablet, da, praticamente la padrona ha rotto pure di schiacciare le cose dell'accensione, si è attaccato il tastino, sono un tipo di piccolini, piccolini, piccolini. Si può fare qualcosa, ottimo lampaggio. Salva glielo, non accetta. Ma uno è rotto, si è attaccato il pezzo di sopra. Non so se siete presenti quel tipo di quei interruttori piccolini, piccolini, piccolini, piccolini, che invece sono con la lente, quelli lì. Praticamente uno è uscito intero, si può saldare, ma ci vuole saldato un adatto per farlo. Perché l'altro è uscito il pezzo di sopra, dunque l'ho recuperato, che c'è? Le cose in plastica e la vidino che va sopra che rimane per le blocca. A suo punto bisogna levarlo e ribloccarlo. Comunque non male, ripetono questi componenti. Andiamo bene, non ti preoccupare. Vabbè, adesso sto prendendo dai cinesi, cacchio. Ho pensato a chiedere se è andato le qua in zona, ma non c'è nessuno che c'ha. Ma ti ho chiesto. Cioè, lui ma da quando ti serve una cosa non vi dai. Tanti due, c'è due ne ho. Neanche uno fa. Dove ti dica io? Te lo sto dicendo, passi in casa lo prendi, poi fa quello che vuoi. E qua se lo vuoi. La rimotto, 5 minuti te lo pigli. Gianni, ho una consiglia ai cinesi. No, passa a casa, Luca. Passa a casa e te lo saldi questo no. Coso, là. No, già. Ho sacato lo saldi, no. Aspetta lunedì, pazienza, mi uso queste cuffie qua. Praticamente sono le cuffie della Sony. Per il computer devi stare col mouse devi abbassare il volume. Perciò abbassare nel filo proprio il volume. Boh, sto pensando cosa fare. Cazzo, che giramento di balle va. Poi sono dei fili maledetti, fini, quelli delle cuffie. Sono perché non vengono i più grossi i fili. Sono talmente delicati, praticamente sono caduto le cuffie intera, sono aperte dove sono le cose, no? Le auricolari, sono aperte e sono staccati i fili. Finalmente si possono saldare quello. Io l'ho preso dai cinesi che mi ha saltato, bisogna che sia succede lui là, mi sento tutto il fumo, mi sto dicendo, correre il giocatore della cantatore, invece l'ha già scattato. Manco mai. Niente. L'avevo appena comprato, era la prima volta che lo attaccavo, avevo pagato 5 euro. hanno tutti i due poli le spine, invece che tre. Allora, no, no, qua ti blocco io. Allora, queste cose qua, saldaturi, come si avevo detto, praticamente comunque saldaturi che hanno sono due poli, cioè fase e neutro, praticamente sono a basso consumo, perciò non fa bisogno la messa a terra, non fa, invece per asciugare capelli, no, asciugare capelli, ma sì, asciugare capelli, fanno l'astio, tutte queste cose così, ci ha spiegato, per quello ci vuole la messa a terra perché sono molto alti, cioè tipo 1000, 1500, 2000 watt. Questi sono 100 watt, 60 watt, 80, dipende dai saldature. Ma comunque li hanno sequestrati queste cose qua, perché lo so che noi abbiamo praticamente sottendenuti ai cinesi proprio che hanno aperto, li hanno sequestrato luci di Natale, saldaturi, è andata la filata con un camion che era la carica di un Tugano. Pure chiamo la CBC, se no perché non te lo compro. Non te l'avevi comprato, non è garantito. Ma la garantia non c'è. Come non ne hanno? Tutti i prodotti come minimo hanno 2 anni di garanzia per legge. Però se non cade c'è la biglia in culo, ma dubbio, fusare il vostro avviotto. È successo anche a gente che magari ha comprato il baracchino, è andato a accendere e non accendeva per niente. Non accendeva, gliel'ha portato, e va a dire che anche sbalzo di tensione, ma se non ha mancato cosa, niente, il fusibile, contro il fusibile, non il fusibile, e me lo deve lasciare, perché potrebbe essere uno sbalzo di tensione, questo e quell'altro, li dovete trattare bene gli apparecchi. Io l'ho sentito una volta questo qua che ha portato questo 1000, era qualche autista, qualche camionista, non lo so. E ne ha trovato un bel discuse, con il mio figlio lui ha prima di sentire a bussare. Attimo, già, scusa, adesso vi chiamo. Vediamo un po'. 79, 27, 44. Ma ho preso la CBC, l'avevo preso. Ma non è bello. Ehi, 3 anni fa, 4 anni fa. E allora, garanzia non ne ha più. Non è per niente, quanto qua l'ho preso la fusa stamattina, uguale. Capito? Si è aperto il sago. Ecco. Attento, Pomponio. Intendi? No. C'è il fatto. Si è attaccato. Attento, Pomponio. Pomponio, ci sei, ti stanno chiamando. Beh già, si sente, questo è il baracchino che piace a te, con le luci verdi. Quale sarebbe? Il Galaxy. Ma quale Galaxy? Il Galaxy che si contende. Questo però, lui sì, che ha le tre, come si chiama, i 3 quadranti verdi. Ah, ho capito. Il Voice. Il Voice da stazione base, come esce già bene? Normale, va. Uscire più forte con l'altro. Ok, ma il segnale, come il segnale mi interessa? Il segnale già è buono, è più alto, 9,5 sì. Sì, allora adesso mi sputtano subito l'MP più 5, io sto usando l'MP più 5 già adesso, mentre nell'altro uso il Turner, quindi il Turner è superiore all'MP più 5. Beh, lì non glielo puoi fare l'attacco per il Turner, quello lì è bello come apparecchio, se è nuovo è bello. Ma io già il Turner uso nei vecchi apparati dell'epoca, hai capito? E vediamo, lo sai, no già, mi metterò, lo sai cosa faccio? Modifico il connettore degli apparati, in modo quando entra che siano tutti precisi, i pili del connettore dell'apparato, se no qui, e se lo adatti a uno non funziona nell'altro. Puoi fare anche la prolunga di quelle che si girano e tu devi adattarlo per tutto. Vabbè, e quello dove l'ho comprato? Fuori. Oh, lo cambia. Cambia? Sì, sono trovati a prendere un saldatore, e l'ho acceso, ha saldato, adesso non funziona più, sì, non poti, lo cambio. Dove l'hai aperto? No, non l'hai aperto, forse magari adesso, ma sono chiusi comunque, ci vuole lunedì là. Comunque qui adesso sono più tranquillo. Ah, boh, meglio così. Stava prenuto, sono compatto da... E me quello lì. Stai dicendo già? Ehi, non ti sento, aspetta che ha fatto, c'è un sacco di collo, di troppo alto di qui. Mi ripeti? Ho detto, dove l'ho compatto da me. Cosa? Dove l'hai visto? Al mercatino delle Fuggi già l'ho preso, 10 euro l'ho pagato. A chi sto trovando in giro? A chi è che sto prendendo in giro? Ho capito. Ok, lo sai già che questo in un attimo ha sfogliato, c'ho un libro tutto del Galassatu, con tutte le cose, anche come si chiama, l'ha fatto dall'atleta, questo qui il Galassi mi ha detto il tecnico che c'ha nome e affetto, ha transito affetto, confermi? Io non l'ho mai apporto, dico la verità. E dove l'hai portata a giustare, cosa c'ha? Già allo stadio finale, tutto quanto lo deve controllare, questo già sta facendo il pulire che fare, questo fa parecchi per quello militare, hai capito? Non è pure neanche tramite il mio compare, che sono molto amici e che ce l'ho fatto vedere, però il transito non ci sono qui. Eh? Ma c'ha finali normali, perché io li avevo cambiati nell'altro Saturn e li ho trovati subito vittorio. Nuovo e niente di quello nei finali, vuole controllare tutto lo stadio finale con il frequentimetro, per lui non è un problema perché fa solo quel lavoro lì, hai capito? E lui è dell'arma, fa solo quel lavoro. E stavo dicendo già, no, qui non è trovi, quei finali, questo è affetto, cioè i finali affetto questo qui. Forse. Io l'ho data a vittoria la volta che mi sono partito in finale, mi ha cambiato sia il finale che il modulatore. In tutto avevo speso 30 euro per fare la cazzata. Ok, adesso vediamo cosa ne capo a piedi lui, sì. Hai capito? E allora non toccare nulla se non sei sicuro, ho detto, perché no, diciamo che lui fa apparecchiature di punti, roba, capito, un cervellone. Capito toccare nulla, ho detto, se non sei sicuro, perché i cugni finali anche da continente si possono ripetere, oppure poteva fare anche pittura, adesso vediamo comunque, io gratis non voglio nulla già. Ma tanto non te lo fa gratis, anche se lo vuoi non te lo fa, ti va di pagare, come fa a pagare, ti fa pagare anche a te. Però Vittorio ne ha già fatto abbastanza, l'ha fatto anche a Antonello, era tutto quanto allineato, adesso a posto, quello che c'era a mettere a posto, adesso è perfetto, capito? L'ha fatto a me ed è perfetto, l'altro non questo qua è tutto un vergine. E ok, no, ma io non sto dicendo Vittorio, l'amico Frizzi, capito? E che voi già ogni volta tra cena e cola ci costa più di pagare Vittorio, a compare tra poco ne è costato un sacco di soldi, questo viene speso per controllare come si chiama Cagliari, fa un sacco di proprio, cioè, manutenzione a queste cose. E così. Quindi già esce bene da questo Rubik, sono contento per lui. Anche io. Avanti, Luca, puoi far girare. E prenda chi tocca. Prego. Avanti. Buonasera, prima che mi trovo a volevo chiedere contro di voi se qualche apparato lo prendo, se c'è un 40 canali almeno. 40 canali, boh. No, io perlomeno no, non ne ho. Chi se non ho copiato comunque, l'ho più da questa parte, in compagnia di K2 e di Luca. Avanti, se no. Saluti a tutti, Gianni Zoro da questa parte. Ciao Zoro, ben sentito. Da dove è venuto? Sassari, Sassari. Niente, no, io 40 canali non ne ho nemmeno uno, non so se ne ha Luca o cosa, Capri 2 da vendere, non te lo so dire. Sì, non ne ho neanche io. Ciao amico, comunque, buonasera, se mi ascolti, avanti. Campo, ti ascolto, certo, sì, nel mentre che parlo sto riparando la posizione. Mentre il mio nome non ho più subito Maria, dovevo andare a trovarlo, non sono andato, ne ho anche la faccia in terra. Volevo chiedere qualcuno dove si può recuperare qualcosa di usato, non prendere molto. Beh, magari Gigi qualche cosa ce l'ha, non lo so. Luigi di solito Vulcano ne ha da vendere qualcuno. Non lo so se ci sia l'ascolto. Luigi, ci sì. Negativo. Poi non lo so tu quanto voglia spendere, ecco, quanto vuoi spendere per questo apparato, perché se no te lo ordini direttamente da internet e fai prima, ce l'hai nuovo. Ma da internet si fa prima, però non sai mai la garanzia, capito? Non sai se arriva buono, se è craccato, se è buono. Dille che ne ho uno io, 100 euro se lo vuoi. Beh, ce n'è uno che le sta vedendo, sta vedendo un apparecchio, 100 euro, avanti, vedere avanti. Ehi, vai, sono in ascolto già, sto saldando un cavo, stavo solo ascoltando. C'ho un Uniden, 40 canali con regolazione di watt, bande laterali, è americano, non c'ha l'FM. Finale 1969. Che cavo, ho copiato, no, è un trovo particolare per la, che, per la questione che c'è a me. Cosa devi usare per fare fuoristrada? E qualcosa del genere, e mi sarà un Zodiac, un 40 canali, qualcosa del genere, un Lafayette, quelli lì. Allora vai da Fusaro, c'hanno quei Lafayette piccolini che vanno bene, li metti, stanno da tutte le parti, sono grandi quanto due scatole di sigarette. Grazie, perfetto, allora scusate per il disturbo, buon proseguimento, non mi raccolgo. E costano sulle 100 euro, non so più o meno tanto lì, ti conviene mettere quelli, non sono ingombanti e vanno bene. Mi servono per lavoro, mi non per gioco, nient'altro. Kappa. Vanno bene, ti sto dicendo che sono apparecchi che vanno bene, sono piccolini ma sinceri, non sono semplicissimi, non hanno strumento, sono semplici, però vanno bene. E per quello che servono a me, da un camion all'altro, non metterà niente, sicuramente. Sono omologati e tutto, quindi sono omologati, vai lì da Fusaro e ne ha diversi modelli, vai e ce li ha. Ciao Rogero, ciao raga, buon fine settimana a tutti, ciao. Ciao, buono, non si è ben sentito, vai. Riprendi Luca. Ciao. Ma la macchinetta non si vede nulla, già, parlo bene. Penso che da un camion all'altro vicino, capito? Miau. Avanti. Miau, buonasera. Avanti, gattaccio. Di nome Cicco. Tutto bene. Già, ciao Luca, tutto bene. Quello che bene, bene, i beni sono poco a poco, quindi... Ciao Rucolo! Accidenti, non si parla mai che manda dallo zingolo. Com'è la radio, com'è? Bene, bene. Allora, facciamo così. Allora, questo toccato per il nuovo negozio che c'è di fronte a... Non c'è la cifrata. Come ti? Ma questa cosa che ne comprate di due. Sì, quelli li ho levati da quattro a dice che abbiamo fatto dei campi. Gli altri vabbè non ne ho più, sono proprio altri. L'ho ancora fatto l'appoggio un po'. L'ho lasciato per mettere la moto carrozzella che deve fare dare il bando a me, che Antonio ha detto non c'è più, allora deve fare lui. come ce ne due tipi a quanto so io, una che ha una percentuale di nicotina e un altro tipo invece che è proprio aria condizionata. La sigaretta se tu non ti poni in campo di bullare più tutto e magari frequenti gente che fuma, ti viene la tentazione eccetera eccetera. Ma io proprio ieri sono andato alle poste e c'era questo tipo che stava parlando con un amico, l'ho sentito, ha detto che lui fumava due pacchetti di sigarette al giorno, che da quando c'ha questa macchinetta qua è 3 mesi che non ne tocca una e non sente manco il bisogno di fumare. Tu sei quasi 9, ci vado un peluzzo, Radio Super. sta andando bene allora, mi accontento anche del poco, hai capito, va benissimo. Salta a Paolo lui, io mi stavo ascoltando, allora spendi 25 euro, ne ho comprato io una piccola stazioncina saldante fine fine da Fusaro, diciamo, ed è bellissimo, è regolabile, comprati quello lui, che va alla grande per fare i lavoretti. E capo, dai, ma parla di tu Gianni, vai. Passaggio, percolate, stai controllando, io sto usando un MP più 5 lui questo apparato, l'MP più 5 che me l'ho comprato, perché mi è venuta la nostalgia, ne avevo uno, l'avevo regalato all'epoca, due volte l'avevo usato, e dicono che è buono, e me l'ho ricomprato per collezionare anche questo, quando voglio vedo tutto, vogliate tutto, mi prendi? Ciao già, buonasera. Hai visto? Cazzo, glielo dare io, cazzo, si è fatto sentire, si vede che non c'è il numero di telefono, perché io sto telefonando e il numero suo non esiste, forse sarà cambiato. Questo che ne va un po' la faccia intera, perché doveva venire da te e poi non è passato, non è potuto passare, quindi ne ha un po' la faccia intera, dice, a ricercarti, ecco. Sì, facete, perché non lei che mi deve niente, grazie a Dio non mi deve niente, per cui forse qualche passa, e vabbè, facete, dai, faccio riprovo a telefonare, dai, comunque ripresi pure già, allora, sentiamo dopo magari. Ciao già, ci sentiamo. Ehi, ehi, ciao Giovanni, ci sentiamo per il tì. Avanti, avanti Gianni Capri 2. Ok, ciao Giovanni, ci sentiamo qui. Perfetto, stavo chiamando già con Luca, 3 ore, Gianni, ma non ogni tanto ti viene il colpo del sonno, così è. No, mi sono spostato perché mi ha chiamato mia figlia, non ho potuto avvisare perché stavate parlando 3 ore. Quindi io ho detto, vabbè, vado qui, intanto a quanto smette ci metterà mezz'ora. Mi farò parlare con Luca del saldatore. Da scusare che sono stato saldante, bella, mi già, sarà un po' stare. Ero così, ma non ne vale la pena per fare qualche connessione di microfoni, qualche cartata, basta e avanza quello che c'ho. Ma è bellina, è proprio di quella che c'ha due, una salda e una aspira allo stagno. E vabbè, sempre un aspiratore di quelle a mano. Fanno bene lo stesso, dai. Io uso il vecchio... sistema, sciolgo poi un colpo così e ne scende in terra. Io ho quella a mano, quella pompa a mano, ok, la so usare, e funziona bene, e il componente lo libera tranquillamente, però l'altra sarebbe stata l'ideale, ma chissà quanto costa, non ne vale la pena, non ce ne butto soldi a comprare quella cosa lì, perché poi qui ce li hanno i tecnici professionali che fanno dei lavori, però devono fare molte saldature per ammortizzarne il costo. Ma tu ce la facevi a cambiare i fidari in quel garasio? L'ho fatto vedere a questo qui perché ogni tanto viene proprio e il dolore deve buscare i finali, deve tenere. No, già ce la faccio già, però diciamo che hai capito, lui è più, non voglio che lo tocchino perché è nuovo di pacca già, nuovo di pacca, non voglio che me l'ha regalato Claudio, che lo tocchi nessuno, per carità, infatti ho detto, se non ti lascia stare, se non te la sento, ho detto non fare, sono già con la dove mettere le mani, hai capito? Però è una cosa già proprio immacolato per me, nuovo. Ci credo, poi credo che tratta bene le cose, quindi non è che ci abbi dubbi, però io l'altra vittoria l'ho trovati subito i finali, me l'ha fatto in pochi giorni, me l'ha fatto, non so dove l'abbia preso, l'ha preso da internet, però in pochi giorni me l'ha dato. Ma che cosa, Negrini, se chiamo ce li può avere, ce li può avere Tecnocomunicazioni e tanti altri colli che conosco, se per farli arrivare, capito? Non è che per arrivare ti vuole 3 dimmi, cosa ti credi ci metta? 3 giorni siamo qua. Già? Sì. Ma se ci ha preso per il culo Fugiano, mentre l'ho chiamato io l'ho preso a Fugiano, capito? L'ho preso a Fugiano. Lui ci ha preso con il culo, prima mi ha detto che trattavano Cielo 1, ho detto va bene, non ci sono problemi, poi mi ha telefonato che trattavano 15 euro 1, una settimana, 3 giorni, 4 giorni, 1 mese, 2 mesi, alla fine, e non mi ha ancora chiamato a dirmi guarda che sono arrivati, perché se sono arrivati io li ritiro e li do a Gianni, capito? Ci ha solo preso con il culo, a me è Antonello. Domani, alla fine, io tanto lo fa una cosa, chiudilo, l'ho portato qua a casa, è capitato, parlando con Gianni, ho detto, mi do, portatelo via, non me ne ha più piante, capito, non voglio manco più vivere, non peccato, perché è nuovo, è proprio nuovo. fatto così. Non ho capito cosa ha detto. Sarà come il bivice 231 che ha ordinato a me. Una settimana, due settimane, passa la prossima, passa fra un mese, passa fra due mesi, poi non so più passato. Scusate, non metto la foto, quando arriva chiama. Poi io sono aperto, ma quel famoso bivice 231 è arrivato. No, dice, non ne farò più. Però passi una guardata, va. Ma per il moto di fuori lì non si capisce più niente. Bravo, io. Mai. Mi sento sopra modula. Dimmi fra. Cappa, ciao Luca. Ho detto a non contarci che per quei finali. Sono quasi due mesi anche io aspettando. Sono andato l'altro giorno e ha telefonato su, ha telefonato davanti a me e gli ha detto che non li avevano. E mi ha detto di arrangiarmi. Ma a battere uno lo dica, capito? Perché grazie a Dio che ne conosco le genti. Però così non si comporta, infatti dopo comprare la roba non ci passo più. Ho prendendo tutto l'atto mio. Mi ha tenuto due mesi, domani, non ti preoccupare, domani ti chiamo, gli ordini, ci sono i corrispondenti, qui e là. Adesso ci ritroviamo in continente, non c'è problema. Però almeno dicono, no, la possibilità di trovarteli e mangiarti, non che c'hai inchini, tira e molla, abbiamo due mesi con Antonello, con questo coso tutto aperto, aspettando a lui, alla fine l'ho fatto chiudere e l'ha tirato così come te, non me l'ha fatto nulla, capito? Quale volete finale in una giornata di arrivo? 23-12. 19-69, ma infatti adesso lo dico a Massimiliano. Le faccio ordinare da Massimiliano, perché c'è un amico in continente, anzi mi hai dato anche il numero Massimiliano. Le telefono, me le faccio mandare, le dirò già a me, capito? Capito? Tanto io, tra quelle degli AESI le ho ordinate oggi e l'indomani allora di pranzo ce l'avevo a casa. Sì, ma infatti conviene fare così, perché qua stanno diventando veramente... cioè non si riesce a capire cos'è, ma la società di niente, tutto qua. Vabbè. Domani ti do il numero di telefono, non ho capito due. Del telefono ti fai mandare i finali. E così la metti a posto con la radio. Avanti, giuro. E perché sono finali normali, non sono difficili da trovare. Sono addirittura momento che sono abbastanza normali. Non so già, ma se i finali sono normali e tutti gli ordini è normale, cosa vuoi fare? Se vuoi vedere dopo la domanda un muro. Aspetta, Claudio. Dimmi. La mia giù l'hai provato. No, ci sono sceso per comprare altra cosa e mi sono dimenticato di chiedere la verità. Però ci devo scendere lunedì, che devo ordinare un'antenna, che mi hanno detto c'è un'antenna HF che sta vendendo, e glielo provo a chiedere a Simone. Ehi, amaci allora, che il mio pensiero sarà quasi due mesi fa. Ne ho preso tre, ne ho preso, nel 1969. Due ce li ho, però mi servono a me, solo te li avrei dati. E ce li aveva lui. Guardi, non so bello, grazie. Non so bello, ma io già li procuro, Già li procuro. Non perfetto con la radio. E funziona, solo che anziché aumentare la potenza, lavora col driver 4 watt. Capito? Anche 3 watt. Un watt e mezzo per uno. Però funziona tutto perfettamente qui. Con il finale è un'altra guba. Vabbè. Ciao, ma ci vediamo, buonasera. Ma buonasera, stavo saldando così, sono voluto intervenire. Vi ascolto, dai, buonasera. Ciao Claudio, ciao tutta la ruota. Continuo, dai. Vi ascolto comunque, sono qua. Vabbè, là. Ciao Massimiliano. Ho detto, lo può fare andare lo stesso, perché con 3 watt e 4 watt che dà, le attacca BV 131 che si è comprato e le appuggi. Sì, già, ma tu cosa avresti fatto? Se quella radio deve dare quei watt, mi la metterà a posto, capito? Anche perché è tutta allineata, ma l'aveva allineata Fabrizio, perfetta, quindi mi la metterò a posto. Se c'è la possibilità di trovare questi finali, si compra, non si piazza, ma sicuramente erano affidati in vecchi, come succede, dai. Magari sfruttati e battono, poi normale che le cose, diciamo, usate, e poi prima o poi si usui, no? Ma le finali non costano manco tanto. Io mi ricordo che te lo sto dicendo, avevo cambiato due più un modulatore, mi era venuto sui 30 euro, non era una fesseria. Come mai ti accontavano prima 6 euro l'uno, poi 15 euro l'uno, i corrispondenti, 27, non so cosa. L'hai detto, non c'è problema, tu ordina lì. Qualunque cifra costino, devo mettere a posto una radio nuova. Sì, sì, sì, ti chiamo io appena arrivano, ti chiamo io appena arrivano. Non mi ha mai chiamato. Addirittura mi chiede di mettere la prossima volta, se poi montiamo quelli da 100 watt, che esce l'apparecchio con 100 watt. No, lo voglio così perché originale, cioè, si vede che non è toccato di nulla, proprio c'è, cioè, perfetto in tutto, ma è... Nulla, anche questo è perfetto, solo che c'è i finali andati, capito? C'è i finali andati. E ti dico che quando io l'ho anche usato, l'ho anche fatto sentire, andava benissimo. Però la potenza praticamente saliva e scendeva da sola, saliva e scendeva da sola. Ma come lo pensavo? Ha pensato che fosse un falso contatto. L'ho data, l'ha controllata, ma detto che non è un falso contatto, sono le finali. Ma vabbè, se prima di bruciarsi, togliamoli. E così li ordino, ma convinto che c'erano. Sono andato a fusare, invece non ne avevo. E allora abbiamo rimontato i sui, capito? Abbiamo rimontato i sui e basta, e poi niente, laggiù la tavola me ne ha fottuto un po' tanto, la cosa è ben a fare, vabbè, ok, vai. Ma c'era anche lui, un gattino, non c'è più nessuno, c'è io, ci sì, tutta rispondo, c'era anche Sandro poco fa, c'era una bella rotta. Poi tutti si sono assentati, o chi doveva saldare, come c'era Gigi, insomma c'era un po' di gente. Io stavo saltando col cuscino, sono quello là, lo fa panco, non sono legato poco fa, stanco morto. Ora tu hai il palo dove vai lì, vabbè, sono entrato anche prima. Avanti allora, Caprile. Sì, perfetto, comunque già... Sentiamo di farlo mettere a posto, hai capito? Come nuovo il pacca, è un peccato lasciarlo. Però c'è, cioè, anche il frequentimetro a sistemare. Sì, sì, c'era da fare, una volta messi finali, poi lo voleva di nuovo Fabrizio e mi faceva l'allineamento del frequentimetro dove ci vuole lo strumento, capito? C'erano quelle cosettine, le tronzate da fare, però ho detto, se non mettiamo i finali, Fabrizio, ma non c'è problema, appena è pronto con il finale me lo dai, facciamo l'allineamento del frequentimetro, quello ci vuole l'oscillatore, capito, era tutto già organizzato. E invece, perché quando lui l'ha allineato, è perfetto, il monolaterale, una schiappettata all'avere, quando lui l'ha allineato tutto, poi doveva fare il frequentimetro e si è rotto l'oscillatore. Adesso siccome c'era riparato, e quindi io volevo riportare per fare quella cosa, tu fai mettere a posto i finali, poi me lo dai, lo porto a Fabrizio e facciamo fare anche il frequentimetro, non è un problema. Quelle sono tronzate, capito? La cosa brutta è che chi lo vuoi usare mi ha pigliato un barbuto. E anche a me con le tavole, la porta, prima ce li aveva, poi no, se dovevo ordinare, mai portato ne hanno, hai capito? E a pensare che signora Giovanna si è fatto suo, però nulla, assolutamente niente. Pazienza, non mi interessa più, si arrangia. Se mi chiama, mi ritiro, non è che non mi ritiro, però non ci sono più andato. E quindi tu, dottore, mi fai girare. Sì, dai, dai. E vabbè, hanno sempre un po' questo vizio di prendere intorno la gente, dai. Lo fanno la GBC, lo fanno lì, non c'è molta serietà. In certi punti ti decidono di darti una cosa e ti arriva. Io per dire la Mamiri a Porottoli una cosa mi dice qua, te la ordino in giornata o domani mattina al massimo è qua. E così è, vado lì domani mattina e ce l'hanno. Come mai queste persone non riescono a fare una cosa del genere? A contentare il cliente? Boh, è una cosa assurda, dopo vogliono lavorare. Come si fa? Loro perché sanno che hanno un giro di altre cose, capito? Quindi non si impegnano per fare queste cose e loro magari le tengono fesserie. Non lo so, parole sante, veramente una vergogna, anche perché siamo in un'isola, attaccati da tutti, ti servono, ma cavolo, quando ordino anche delle cazzate, ho ordinato una busta da 10 di PL in continente, non hanno fatto niente, mi serve così, così, dice va bene, come vuole in contrassegno, ho detto sì, in contrassegno. Mi ha fatto un pacchettino, una busta con le CDA, ha già pagato un contrassegno, a posto, cioè queste sembra che le stai chiedendo chissà che cosa, capite? Boh, allucinante veramente. Ma ti ripeto, Fusaro non era così perché l'ho sempre comprato e non era così. Avevo ordinato l'MB più 4, l'MB più 5, la verità, erano arrivati, mi aveva telefonato, però era vivo Vittorio. Da grande è molto Vittorio, anch'io non ne comprende né più un accidente. A me me l'ha fatto per due cose, per il BV 131 e per la KP1000 che mi si era rotto e poi l'ho trovato su internet che tra l'altro l'avevo ordinato da Tecnocomunicazione e l'avevo pagato come HP1000 e me ne avevo mandato 500, te no balla, questo non è quello che ho ordinato io, prendo il telefono, mi fa, me lo rimando indietro a spese nostre, non c'è problema. E abbiamo sbagliato il pacco, deve essere prendendo, ma secondo me non controlli. Anche a me la Tecnocomunicazione mi ha ordinato il Proxel da 30 ampere, me l'ha mandato al 25, capito? Come è arrivato, gli ho telefonato, c'era una differenza di 10 euro, non è per le 10 euro, non me ne fregava niente. Però ha detto lì che ha pregato il Barobù, allora gli ho telefonato, ho detto guarda che ma è possibile, no, no, è possibile, è possibile. Mi hai mandato un 25 ampere anziché il 30 ampere. Guarda, mi serve lo stesso, quindi non te lo mando indietro, però sappi che mi devi 10 euro. Allora ti mando un calvetto per il microfono per il 908, no? Perché il mese prima avevo preso il microfono da tavolo 908. E c'è tre uscite, mi hanno mandato tre calvetti perché sono in dotazione, però tutte e tre della ICOM. Ho detto sì, mandami il calvetto in dotazione della Kenwood e mi ha mandato quello lì, che costava 7,50 euro, ci ha vinto sempre lui e mi ha mandato quel carretto, però fa dei bui bici, ha capito, sembra che siamo degli handicappati in Sardegna, no? Ma io gli ho rimandato indietro, come gli ho rimandato indietro l'alimentatore che non funzionava, per tre volte mi ha mandato sempre con lo stesso difetto. E quello lì ho capito che era proprio un problema di alimentatore. Ma oltre a quello non fa altro, cioè si spegne e poi la volta che si riaccende sta tutta la sera accesa tranquillamente, fornisce l'energia giusta, eccetera, eccetera, il montaggio giusto, eccetera. Quel difetto lì che è per protezione. Quello quasi sia un difetto di fabbrica, allora l'hanno messo così e l'hanno venduto usci, non è la prima volta che succede, ma anche a me è successo. Un microfono a tavolo che non c'era scritto di farlo funzionare, c'era sempre questo fischio, questo fischio, questo fischio, ha detto ma è mai possibile che sia usci. Ne ho comprato un altro e non fischiava, quindi. E quello lì gliel'ho rimandato indietro, ma siamo ai 20, perciò può capitare, no? Capito? Però loro ci provano sempre, maledizione, sono sempre in agguato a fottire i denti. Va bene, Franco vuoi riprendere? Certo il nuovo, io ti sento forte e chiaro, buonasera, non so se ti ascoltano gli altri, lo senti proprio Roma, appena certo. Pio, pio, pio. Quindi Pio Pio da Gianni Doppio Rum, vediamo da KP2 se ti sente. KP2 va là, vedete. Ok, mi sento Pino, buonasera, mi ascolti lì? Quale sogno? Ok, non so a cosa ti riferisci, se ti riferisci a donne, cosa ti riferisci Pino? sei arrivato al top, visto che c'hai il Royce. Ah, ok. Io queste cose mi piacciono troppo. In Tartari io diciamo anzi stavo pensando che passavi anche qui e io diciamo mi sono liberato dopo un'ora e mezza ero a casa e ho trovato cioè, così sono qui oggi poco servizio però mi stavo controllando le batterie del pullman e l'ho messo in moto se no quando rimane molto fermo se ne scendo e così mi prendi già. Ma l'hai fatto viaggiare stamattina, sì. No, niente, cioè io mi sto facendo un servizio a scuola, però ogni tanto faccio qualche transfer dall'aeroporto, però adesso già, diciamo, sta iniziando a calare il lavoro, perché proprio in inverno lavora poco, ma l'ho già pagato l'assicurazione per il prossimo anno e niente, sto viaggiando con il suo servizio a scuola, non mi basta quello adesso, hai capito? E poi se c'è qualche cosa ce la facciamo, ma con questo tempo non sarebbe manco a avventurarsi, riprendi qua. Con questo tempo dovrei andare già. No, io stavo rientrando dal lavoro stamattina mi sono fermato lì a Budibudi a rifornire e ci siamo trovati lì, capito? Abbiamo preso un caffè, due chiacchiere, ho detto questa cosa e niente, tutto qua. Comunque, è un casino, è un casino. Mamma mia, cara, per carità, sono buio. Va bene, ma fra quei sosso non c'è più già. Stava salutando Franco. Franco, ci sei? Ho detto che stava salutando poco fa, poi non so se è sentato. Avanti a chi tocca, dai, così non sbagliamo. Tanti saluti, Pinocchio del Moro, se mi ascolti. Tu non ti ha salutato Gianni Doppio Numero, intendeci? Sì, vabbè, Gianni, lo senti bene, Gianni Capriolo ce l'hai davanti. Comunque ti saluta anche Gianni Doppio Numero. Massimiliano il Bulldozer, vuoi entrare, vuoi parlare? Capo di Bugnetta. Luca Manitumi, vabbè. E sarà tutti al computer, tutti drogati. Io ancora aspetto, un dopo l'accendo più tardi. A ver se c'è qualche email. Vabbè, ne prendi tu lo più numero, fai girare. Mi ha chiamato Giulio, ma te lo stanno accendendo. Però ci avrebbe gente. Domande per venire a prendere delle misure, come ha detto che entrava Giulio a Bisecce. Ah, ti sta facendo di nuovo il continuo di Claro? Già dovremmo finire, perché sennò non ci sa più niente, capito? C'ho delle linee valvolari e quindi ho bisogno un po' più di spazio, siccome è avanzato del materiale che lui ha fatto queste basi. Ma io stavo pensando di usarle, però sono senza far niente, ho detto vai avanti, così faccio l'altro pezzo della L e mi sposto il PC lì, e già va bene, così è tutto completato, ma poi devo vedere altre cose che ce l'ho a fare qua a casa, e ci vediamo domani mattina, non te passa qua, va bene. Quindi chi c'è rimasto io e tu, Gianni K2, non c'è, poi chi c'è già? E poi nessun altro, io ho chiamato a tutti, non ha risposto nessuno. E non penso che ci sia nessun altro. Giulio se ne senta. E vabbè, anche perché poi Giulio sta quasi chiudendo del tutto, quindi prima lo fai meglio è, perché poi se decide di chiudere tutto non fate più nulla. Sì, vabbè, infatti, la chiude. La roba sua quella ne serve per fare i lavoretti e le cose. Perché non lo conosco io dove stare a casa già soffrendi. Infatti si è inventato questa cosa. Ha detto va bene, fai, così lo compartiamo e ti fai qualche giornatina di impegno. A mio padre quando gli ha detto il dottore che doveva smettere di lavorare, che era già troppo grande, cosa? Già ha tagliato un pezzo di cuore. Io dico, se a me mi tolgono il lavoro, io sono un uomo morto. E come fai a farli abituare dopo 40 anni a scivi lì tutte le mattine a quell'ora, tutti i giorni, perché loro erano persone che non mancavano mai del lavoro, poi quando uno è a conto suo, capito? Non è facile, quindi chiaramente è così, però quando il dottore dice basta, ti devi fermare, se no è che è un casino. Però è capre 2, e tu quando è che ti fermi? E ancora, tra una ventina d'anni, e tanto pensione non ce ne danno, quindi, e ne ho ancora, hai capito, finché ti lascia lavorare Gesù Cristo la vogliamo. Però quando, poi stai dicendo tu, quando il dottore dice buono, ce ne sono tanti così che non ci vogliono avere, purtroppo quando hai te in oltrata bisogna anche fermarsi. Stavo dicendo, come devi fare stasera club, vieni via con me, ti porto a una cena, a una bella festa, vuoi venire? Ci mi servono anche Santa Valle, lui, dovete avere ciò, mio fratello è, fra un po' mi bussa la porta e viene a prendermi, già quattro volte mi ha evitato, non sto andando più da nessuna parte già. Né a Porto Torre, se ne è vero, nessuna parte. Tu immaginati che il 24 io sono a casa, io, mia moglie e mia figlia, capito? Perché il 25 devo lavorare e non voglio andare a nessuna parte. Quindi siamo a casa e non vado da nessuna parte. Non, questo periodo sono stanco molto, sto aiutando anche qua i lavori sopra e sopra a pezzi. Sono a porta di bustiche, infatti o mi fermo, o tocca fermarmi veramente, no, non c'è voglia di fine, non c'è, o io ho un po' freddo, mi stanno a casa, mi qua, computer, radio, televisione, balla e poi voilà, non vado da nessuna parte. Grazie, ma non si sa bene, no, che mi sono 23 gradi, bello al calduccio, no, non me ne affitti niente. Vai, doppio rum. C'è il caso dei termosifoni, sono sdraiato, tranquillo, modulando, chi meglio di me? Non ti invita già, non ti invita, ma se la giornata è bella, ma poi alle 5 buio, andiamo, è bello uscire a fare una passeggiata, a fare una cosa, a fare magari delle compere, così, ma risulta il buio, c'è un freddo da gani, ora c'è il vento, sta piovendo, ma tenate, non va nessun posto. Per uscire da casa, entrarmi a casa degli altri, no, non ho i miei hobby, quindi preferisco starmene qua, capito? Se invece d'estate già esco, d'estate il sabato non ci sono mai a casa, ma d'inverno troppo bene ci sta a casa già, sono già in pigiama, in ciabatte, al calduccio e arrangiati, dove che devi andare, capito? Dove devi andare? Sì, sì, c'è questa manifestazione da mangiare da bere, c'è mio figlio che suona, io non lo sapevo, mi hanno invitato, ma come stai dicendo tu, mi ho trovato questa cosa, ma c'è tuo figlio che deve fare la serata, si va tutto grazie a mangiare, a bere, forse quello del vino, non lo so, questa roba che fanno, c'è la cena, ma mio figlio non mi dice nulla, non mi ha detto nulla, ma ci sono i manifesti, ma io non li ho visto, e quindi adesso se Claudio vuole andare, perché questo che è invitato il suo maestro di organetto è per forza Clavide a muovere, se no non ci può andare lui. No, no, troppo freddo c'è, lui. Avanti, Pinocchietto il Moro. E chi Pino? Non sento nessuno io. Sento a te, non lo sento, non ho osservato io. Avanti, doppio rum. Datemi un secondo che farà bene. Ma dov'è Monserrato? Monserrato! Ah, io non sento mai capo di certo Monserrato, mi sa che modulo lo stesso da Corso. Dal paese di Pinocchio. Sentite il bip mio adesso. Sentite il bip. Capri 2, allora se ti c'era stanotte. Ma guarda, io sono come Claudio, non mi piace muovermi. Purtroppo, capito, devo portare a Claudio, devo andare, hai capito? Ma non ho più voglia di stare in giro, che è freddo, viene, e sono anche ingolentito, come stavo finendo di murare quella porta del garage, guarda, è una cosa, ma facciamo, non è che mi trattengo molto, presenzio, sono un po' e poi non ci rimango più alle ore piccole. Minuccio, quindi sei contento delle mie scelte, così? Sto usando il Ruiz. Questo segue a me. Se quello dice la cantella mi domandato io, boh. Ok, questi sono blindati, manco uno ce ne esce di questi apparati. Perché è venuto un vecchio che modulava. Adesso già ne hai fatto manco uno che dice, di essere sa catena, beh, come ti viene sa catena sul lucchetto. Hai capito? Io sono un collezionista proprio di quelli accaniti, vero e già diglielo. Ehi, vabbè, ma se ti vuoi alleggire, sai, nella stanza non è che ci sia più di tanto di posto, se ti vuoi alleggerire un po', quello lui si mi può interessare. Di alcuni mi sono alleggerito, tipo quelli UHF, c'è proprio la di Scrappet, quello da 100, quello da San Claudio e altre cose, quella da Reali Amatori, mi ho lasciato solo l'Icom e Google, dello 30, se no già resta una nuda. Ok, gli altri sono tutti blindati, sono tutti, ma manco a spolverarli voglio. Allora c'è Vittore, da. Cosa? No, ricevitore, dico, quello che c'è la KP2, dattola. Ricevitore? No, a me mi ha dato il trasmettitore della linea Ricraft. E io mi sono comprato un ricevitore perché lui non c'ha per la ricevitore. Io tramite un radioamatore di Bergamo mi ha mandato il ricevitore, quindi mi sono fatto la linea, capito? Non abbiamo fatto cose di soldi già. Abbiamo derogati e basta. Cominciamo a vedere le cose che mi interessavano, abbiamo fatto dei cambi, eccetera, eccetera. Il coso, il Galaxy, l'orato se lo ripara, non me ne frega niente, ma gli altri radio abbiamo fatto dei cambi, che non ci aveva delle radio amatoriali che non usava e quindi me le sono prese io, avevo levato i baracchini e tutto qua, per capirci. No, non c'è problema, stavo scherzando. Comunque lui si mi è sempre piaciuto, dico la verità, Insieme al Galaxy lui si mi è sempre piaciuto, da quando li ho visti da Walter, perché li ho conosciuti lì. Lui mi è piaciuto come l'ho visto, quello lì, poi l'unide è quello che c'aveva quattro strumenti, mi pare, mi piaceva. Perché non sono tutte le stazioni base che a me piacciono, e dico la verità, ce ne sono alcune che mi piacciono, alcune no. Sì, ma anche a me così, solo ne avevo troppi già, ne avevo troppi e alla fine questa non stava più diventando una stanza di radio, ma una stanza da collezione, io purtroppo non me lo posso permettere perché c'avevo anche altra roba da usare, da mettere, e praticamente ho tenuto il DAC e basta, il DAC e qualche altro baracchino, insomma, ecco, per il resto li ho dati tutti a lui che li usa e chiusa, io usare col baracchino, modulare col baracchino è difficile, faccio due chiacchiere con questo, basta. E quindi ho preferito darle a lui, eccetera. E niente, tutto qua. Comunque Gianni, Capri 2, sto proprio cambiando la lampadina perché adesso un becille mi ha mandato il ricevitore, il 146 della riclasse che c'è la lampadina, l'ho smesso e fulminata, non me ne ero accorto. E siccome è 220, fortunatamente c'avevo quelle del DAC, capito? Che sono precise identiche perché lo strumento è grande così. E quindi mi verrò adesso saldata, sto mettendo le vittime e lo sto chiudendo. Ok, va bene. Ma è sempre un discorso già, vedi, un collezionista come Walter va bene perché c'è il posto, anche se è tutto ammontonato in chili, però facciamo tante eccetera, ma qua quando c'è una stanza così come la mia, che la devi, insomma, ci devi stare. era un pezzo di filo con tutti questi base, alla fine parlando così con Gianni, ho detto cosa ci aveva, ho detto c'ho questo, questo e questo, e allora siamo qui, tutti a fare segno, poi caricati la macchina e portati tutto. Tutto qua, va bene. Chi è che ci è rimasto allora in questo canale? Non c'è più nessuno. Abbiamo fatto con l'eco a Cosmi, a Giampaolo Silvestro, adesso quando lo sentite con la col motocarro, quasi Antonio Reddo Junior. Ma non la sta più prendendo, la moto, non l'ho più vista in moto a Giampaolo. Ascolta Giampaolo, ci dici il video megafone, vi raggio io. Io non ce l'ho anche sta. Tocco i pugni, non vedi in mano c'è un microfono, cava. Non c'è mai di tutto, ma devo tappare le mani. Non è che puoi prendere in mano tutto quello che ti dico, piano piano. Ciao, tigre contro tigre, buonasera, ben sentito. Ui, la verità è c'è, così è, eh? Siamo azienti, siamo assimiliati. Claudio, io metti quello del microfono con l'eco. tutto ciò. Fino forse ha chiuso. Benemera. Sto dicendo fra, ti ho buscato l'autotrasformatore a 110 neanche. Bene, bene, così non uso quello del DAC, perché sto usando quello del DAC per la linea Lecraft. Attenzione, signor Gambero, ci sei? Come zio Pelù? Signora Gambero, sparita perché è incinta mia cugina e poi se ne è scappato. Poi se c'è il ricevitore ti fa due risate, sta entrando in VHS, ma c'è da ridere, c'è da ridere. Non prendi ancora. Non c'era bisogno di far ridere un bel. Quella lì che si incazzava, mio marito è una persona onesta, non si permette di dire certe cose, a lei non gli ha detto nulla perché è un furbacchione. È un pazzo furioso, va bene, sta entrando, si è come la moglie, sta entrando, sta facendo sentire ogni tanto. Va bene, avanti Tigre, riprendi. Riprende, sì. Va bene, ok. Già sono qua, dai, che vi ascolto, mentre che faccio vi ascolto, vai. Va bene, volevo sentire Bulldozer. Adesso siamo alla normalità. Bulldozer, fatti sentire. Ehi, io sono qua io, bene mi ascolti? Guarda con l'eco, ecco. Oh, era ora, dici, come te le cristiane. Ehi, la gente ha commesso la propagazione, lui, è qua. E voi ormai siete abituati alle radio soft, super soft. E anche tu cosa fai, un carruzzo? No, non ho detto questo. Però con la propagazione mi diverto un po' là, con uno solo, perché l'altro gli ho fatto due foto, poco fa adesso stasera quando salgo su, cioè il PC l'ho messo su subito. Va bene, sì, vabbè, quando c'è preparazione è tutta un'altra musica, è tutto un altro paio di maniche, va bene. Sentiamo Capri 2 se mi ascolta meglio. Ok, sta chiamando anche Pinocchietto, sì, ti ascolto meglio adesso, è una telefonata, stava chiamando anche Pinocchietto, le rimetto il cambio, avanti Pinuccio, fai qualche passaggio per non rimanere fermo. Ok, c'è anche Sandro di Porto Torres, c'è Gianni Do Piurum, saluto, ma non mi sente a me, capito? Non mi sente perché quella zona non è favorevole per me. E niente, è tutto lì. Io le lancio di tutta Massimiliano Bulldozer, vediamo un pochettino se riesce a arrivarci lui. Oh, Pinuccia, mi ascolti? Ed adesso ho sentito a te, ti ascolto. Io. Mi ascolto solo con questo. Aspetta, vediamo un po' se Pinocchietto riesce a tirarmi fuori, ma sarà in queste condizioni, sarà molto tribola in queste condizioni. Pinocchietto nuovo, ascolti Papa Torres, buonasera. Confiato vai a Sandro Pinocchietto. E comunque ti saluta cordialmente, sa, ha detto che c'è un po' di QRM e non riesce a copiare, dunque a Massimiliano l'ha copiato. Dire Capri 2 che io con questa radio lo ascolto, ma lui con questa a me non mi ascolta. Solo con l'altra mi può ascoltare, va? Bene, riprendi Clara. Aspettate, mi è stata una vita nel piede, cazzo. Oh, Massimiliano. Dimmi. Come puoi passare? No, non posso mai passare niente qua. Ah, ok, dai. Va bene. Deve andare così, va benissimo così questa, Clara, non devo cambiare tutto e questa va bene così. Chi mi ascolta mi ascolta, chi no pazienza, questa no. È anzianotta, capito, quindi se la sfrutti magari è un casino. Va bene. Comunque 48 in vendita. No, gliel'ho detto quello là poco fa. Ah, gliel'ho detto, sì. Cosa? No, è Zorro. Zorro stava cercando un 40 carati. Ha detto che voleva roba semplice. E non è semplice già, io ho un Uzi 40 canali con bande laterali, regolazione di watt, finale 19,69 e più cose di così, lui non va l'apparecchietto, raga. Forse voleva un mitra, non lo so, lui ha detto che tanto vi serve da camion a camion quando viaggia. Ma lui si voglia comprare questo, non è altro, tranquillo. Non lo so, non conosco la persona, quindi non posso dirti niente. Io ce l'ho il mio. Infatti qualche giorno lo piazzerò in casa per vedere come c'è, solo che ho sempre la paura di quei disturbi e che mi fa la scappare tutte le volte. Sto cazzate, ma il Claudio l'ho usato una vita perché la disturba. Vabbè, lasciamo perdere Gigi che lo usa quando i negozi sono chiusi, perché ma il problema sono dei negozi, non di Gigi. Io non lo uso, cioè, già l'hai visto, io abito tutti attaccati qua, abitiamo, eppure non disturba nessuno. Vabbè. Quello sfigato sono io, veramente. Una volta che quando attaccavo il 140 l'ho dovuto prendere perché disturbavo il telefono. Non in tutta la zona, però lo disturbavo. Ciao Pinuccia, ci sentiamo. Tra poco, un sacco per le voci. Ci sentiamo domani, Pinu, non penso più tardi perché non so che ora dentro. Se non mi trattengo molto lì, però è difficile che poi accenda quando dentro perché saranno tardi. Scusate gli altri. Anni, ma l'ha aperta questa cosa? Ci sentiamo dopo, se non ci sentiamo buona serata a tutti, vi saluto, un QRT per me. Ci potrà cambiare tutto il centro, Massimiliano. Sì, adesso ci sta scendendo bene, sì. Parlando. Invece di più forti. Come ti stavo dicendo, Massimiliano, ciao, buona serata, dai. Ci sentiamo, se ci sentiamo dopo, se no, buona domenica. Rimasto, Claudio, avanti. Io mi sento da una cosa, ma ci sono già detto, una vite, che dite? Ma ti cerca, c'è la vite. La bucandita sale ordinaria, sale l'orito ordinaria, bisogna alle 4 di mattina ha scusato il telefono, via di mia moglie che la mazzetta ha dato un colpo, cazzo, è tornato indietro, la piglia dall'anca di rego, ma gli ha fatto la gamba, cazzo, allucinante, un rinvaso di sangue, tutti i buscicchi, lui. Quello abbiamo. di Gianberto. Ah, che chi su 80. La modulazione è a bomba. La radio è quella che conta, Gianfranco, il modulatore è fortissimo. E vabbè, 430 si è 80, ormai è roba chiusa, non è 106. Avanti, Gianfranco. No, il segnale non è... è basso il segnale, però la radio è a bomba. Prova. E vada, va attaccato. Adesso 6-8. Poco fa è di 3-4. Se attacchi da un grido. Aspetta, ci credo sia qualcuno a Facanari. Scusate ma. Non c'è un innesto. scusate, se no mi hanno trattenuto da quando hai capito a Tisi che c'è una manifestazione, c'è mio figlio che suona, hai capito, andare lì, però prima sto cenando per sicurezza. Comunque ci sentiamo, sa, buone cose, ciao. Ok, ciao Capridio, no, era soltanto per vedere un attimino se aveva cambiato la situazione lì da te. No, adesso va benissimo, sa, ti ascolto benissimo adesso, la radio è perfetta, ti posso dare quasi 5 arrivi di radio. Ok, capo, dai. Ok, va bene. Cucarum. Sono qua, ma ho uno splatter e non riesco a ascoltarlo, uno splatter forte, probabilmente vicino, non riesco a ascoltarvi bene, dai. E, niente, riprendete voi, dai, che arrivano in quell'X, si raccontano ufficio questo disturbo, poi riprendo. Già, siamo a 10. DJ Giovaria sui canali 1, spostati a 10, spostiamoci a 10, a 14, al 20, già. Ti parato, non si compra un cazzo di quello che è andato con la vita. Facciamo alle 10, va, non si usa così la radio. Che abbia delle allucinazioni io. Ah, così vi ascolto bene, no? Cioè segnali forti intendo, segnali bassi vi ascolto benissimo. Chiari chiari, segnali forti. Se io tocco l'antenna, Claudio, voi se ne ascolto Sandro, praticamente il segnale va più su, cioè ricezione, ma riceve male. E c'era tutto così. Cioè cosa vuol dire? Ma toccando che cosa? Le rete gay, qualcosa del genere? Sì, un po' rau la tua radio. Sì, ti attivo appena, tipo così. Parla. Guarda, a vedere, un rau qua, già sono un po' raucellinoso, come dice qualcuno, c'è un po' di mal di gola. Essere rauca, boh. No, ma dipende dal baracchino mio, sarò macca o crato, dal baracchino mio. No, adesso va bene, però ti ha attenuato un po', cioè a metà ti ho portato. Non lo so, perché fa questo problema, boh. E poi allora, quelli non è quello integrato, sarà qualche blu, non so, non lo so. È un peccato, perché il baracchino va benissimo. Colpi, riprende, così non riprende. Quando ci sono segnali troppo compatti, ecco. Così va benissimo. Ma voilà, facciamo la voce, non vorrei polemizzare il canale. Avanti, già ne prendi tu. Sì, ma qua adesso non si sente più nulla, non si sente più niente. Probabilmente il microfono amplificato che stava disturbando. Eravamo troppo vicini, e quello anche vicini sia di canale che di corso, ma succede. Purtroppo anche gli apparati che non prendono colpi, quando sei così vicino e con microfoni così potenti, riescono a sentire, capito? Come la tapparetta, troppo potente? Sì, sono rifatti giù, non la tapparetta. Non riesco a capirlo, è quanto è forte. Vabbè, ma stare nello stesso canale è una cosa diversa, Giampa. Se uno è in un canale o nell'altro è diverso. Non riesci magari a sentire tu e nemmeno lui. Però se uno sta nello stesso canale del vicino si risolve, no? Essere accordati e non faccio gli spiriti e cose, e si risolve tutto, non è che... Ma per ora Gio Maria e la buonanima di Mario che erano attaccati, e modulavo, si potevano, guarda, facevano la finestra e parlare nel balcone, facevano prima che parlare a baracchia, lui si parlava a baracchia, io passo a prendere il caffè. Giampa, la macchinetta è in posizione. Vedi, ti faccio andare la macchinetta senza batteria, altro voi. Sassari. Dimmi voi. Per vendica, ammazza che te ne varia. Arriva così, Sandro. 9 più 20. La mazza che te ne vale. Con K sei 9, con picchia 9 più 5. Mentre invece con Baracchino sei 8. Bella, bella, e se glielo me le prese? si può fare anche lì, è vero, si può fare anche lì. No, perché mi ricordo che a Porto Torres, ma anche a Sassari credo, non so se sto sbagliando, ma a Sassari in Piazza Pola c'è quello che vende quelle teglie in alluminio quadrate e rotonde, proprio per mettere al forno. Per la fede vorrebbero stagnare. Quelli lì sono, no, già. Non lo so se le vedi, io li ho sempre visti a quelli della Faini, le stagnano, le fanno stagnare, che poi non ho mai capito come fa lo stagno a resistere al calore quando si scioglie subito lo stagno, basta un minimo calore si scioglie, e cazzo pure delle teglie resiste. Tanto luglio c'è anche nella Faeni, no? Luglio non la fai con luglio, scusa, ci metti luglio e la pasta di cicci con l'acqua, là. Non si fa così. Scusa se te lo chiedo, perché vorrei provare a farla anch'io. Ah, c'è scritto la gradazione a cui va fatta, là. Ho capito. Dice che è molto facile da fare, non si dica che da quella del vicino di casa la riunione ce l'ha portata con le salsicce di cipolle. E ho detto dove l'hai comprata, che è buona, che è mai, te l'ho fatta io, ma vai. E non vi grido. Ah, tutta lo giuro, infatti facendo della sedia, tutto quando non ci grido. Ma se la buona veramente. Però non ci ho mai provato, bisogna sapere gli ingredienti, bene, il dosaggio. Buonasera, guarda. Sei K2? Positivo. Facciamo K2 per sentire. sono in compagnia di Claudio, di Luca, di Sandro del Porto Torre, di Giampaolo, eccetera, eccetera. Ma per chi vuoi, anche per il tuo Claudio, se lo sì. E perché non lo sento, arrivo a sentire un'ora qua. Buonasera, K2. Buonasera a tutti. Ciao, fatto applauso. Oh, K2, ciao, passo passo, ma ti ascolto. Buona porta. K2 è quello di Pesanto, ma sì. Ero lì, non ci sono più. Ma? Ero lì prima, adesso non ci sono più, già da fuori. Ma è stato di occupa, c'hai. Non lo so, aspetta un attimo. Ma ti segnale, comunque ti ascolto, dai. Mi aspetti anche fuori. Mi andare avanti, Claudio. Dite su che perché non mi trovo, un microfono. Fate girare, già sono qua io, non c'è problema. Fate girare la rotellina. K2, dai, ma cosa hai combinato? L'antenna è cambiato, ma che cosa hai fatto? Perché sta arrivando più forte? Mi ho fatto un piccolo, sono riuscito a chiudere il campionato, dai. Fai più bacio ancora. Ah, sì, così poco adesso. Sì, aspetta, no. Luca, adesso mi senti? Parla! Oiga, prova, mi senti ora? Sì, ma ti ascolto, il problema è che c'è un po' la riuccupa, non so se la riprende da me, boh. Poi come ascoltate Gianni e Claudio. No, è cupa, hai ragione. E cosa stai facendo col dipolo e poi cosa fate? Attaccare? Uga. Però sto guardando un sotto ancora, tornato con la gruppa. Ma anche su cresce meglio, se un bel su cresce meglio, è più forte e tutto. Ma comunque, adesso ti sei destreggiato, va. E che linea avresti usato? Non ho capito qua. Che lineare c'hai? Non so, un CQO così qua. CQO, non so, non so così. Fate fa te. Non c'è scritto qua. C'è scritto il modello 7300. Ah, 80 watt. Ma con questo di polo non so, magari non funziona poco. Poi sto usando la batteria della moto perché il lavoro fa solo che qua per fare la cosa lunga non va troppo lontano. No, no, guarda, funziona, te lo garantisco perché anche in vicinanza funziona, quindi non c'è nessun problema. E se fa l'inventato non mi ha bruciato quell'altro barattino, ha bruciato il primario. È perché passa troppo voltaggio, sicuramente ti ha surriscaldato i componenti. Oh, guarda, me l'ha calcolato con la tua, non tocco, guarda cosa non contorto, non sopra, non volevo arrivare al punto, ma non so. K, vabbè, ma che devo fare? Cose che possono succedere. Luca, ripeto. Via. Dove sei capato? Dove ti trovi? Adesso sono all'Ovulunque, giusto la Santa Luca. Ah, ho capito. E ora non mi ricevi bene? Qui sono un po' basso la volontà. Però ho sempre un fatto di nuovo più forte, sicuramente. Però ho capito. Oggi va vitto. Vabbè. Allora io adesso mettiamo anche fuori, che c'è una sala di occupa. Ma è un microfono amplificato, un microfono normale. Beh, è un tra amplificato, non so di. Ahi. Dai. Questi microfoni, se non ce cioè, lo trovi la capsula sua di quelle toghe, non trovi l'abbinamento, era il V1, ero riuscito, ma insomma, ho fatto le guerre con quel microfono, però era da Franco, lui si era messo a modificarlo qua, modificarlo là, già, l'ha disintegrato il microfono. Capo, se ti interessa io ce l'ho il microfono a tavola in vendita. Allora io ho messo più subito questo barattino, quello portatile. Quanto l'ho fatto? Quanto l'ho messo? Io l'ho messo 180, tu quello volevo, lo compro l'altro e lo compro due. L'altro non è più, poi se da quei due non è più baracca. Sono 48, ma dovevo da buttarlo, ma non farò. Vabbè. pagato. Ma io mi ho registrato prima il 48 e proprio ho fatto quel passo, perché se no poi rimani senza. Ma va a lavoro tutto. Cosa non si farà molto la vista all'ospedale? Infatti no, ma tu, uno che sei io, poi non posso andare vicino. I due, ne ha? Ma vorrà il suo stato, non lo so quanto ti prendo. Anche Luca le sa cambiare, mi pare, è vero? Che cosa? Il finale del 48. Che cosa ci vuole? Sì, sì. Non ci vuole niente a cambiare. Il problema è... c'ho anche... tutti i cosi... non è che solo la pasta. Mi si mette, ma c'è una buona pasta apposita, no? E quello lì me la compro. Mi serve anche per il computer. Con la pasta... per l'affidamento. Per la pasta destinata. Cappa. Ma mi deve essere quello. Ma come l'hai bruciato? Usando la fallimento come l'avevo fatto dopo, come l'avevo fatto dopo. Ma il filo è invertito. No, gli è passato più voltaggio nell'alimentatore, perché si è combinato, l'alimentatore l'ha fatto passare più volte, le ha bruciato. Ma mi deve essere i finali. No, non lo so. Io uno l'avevo riparato di cosa, di Gianni da Volturio, un 48 che gli avevano dato col camion, avevo sbagliato la 24, aveva spaccato i finali, cambiati, una bomba su due macchine ha durato, perfetto. Infatti di solito quando entra così la corrente brucia tutto la storia dell'alimentazione. Sarà questo il finale per il finale. Ma se io quando va facendo ricerca, però se fanno io non mi sento nessuno. Ho già fatto il rosso, se non si alza la parola del rosso. Il finale sono partiti. C'è la trasmissione. Sì, poi sarà anche modulato. Ma non penso, Icket. Bisogna andare ad aprile a vederlo. Se non ci avevamo messo già le mani, già se ci ha abitato, non lo so. Io non so fatto nulla, no. Ciao, allora andava. Aspetta, ho fatto ci vuole a salvare tutti qui. Ma i finali costano, non so se li trovi neanche, devi avere per quale finali molta, capito? Non lo so, bisogna vedere. Così detto, una ventina, 25, non so. Tutto, c'è la riparazione con i finali. Se costano quanto mi ricordo io, se no. Guarda, però me lo voglio tutto il fattore, non l'ha fatto da noi, quando l'ha fatto. Ecco, non ci sei. Qua sono, aspettate un secondo che sto cambiando questo affare. Sto cambiando questo microfono, ho un auricolare, ma lo devo mettere in macchina. Un vocale, io non mi devo pubblicare. Già sono qua, proseguite. Mi ascolto, due secondi e riprendo subito. Famosa del microfono, non gli ho detto niente, che fuori di gamba, ma ti avevo due palle, ma ogni giorno mi chiamava, ogni giorno, ogni santo giorno. Allora ci sono 20 milioni. Mica non. Secondo me la rimultura, gli hanno messo la cuccia nell'orecchio, però fidati, al 100%. Per il prezzo viene sparato. Cosa gli avevo regalato? Cioè non mette più 4. Nuovo costa 50 euro e 40 e il caffetto non lo deve pagare, è gratis. Ci sono due connettori da 2,50 l'uno più il cavo e insomma non è che ve lo devi regalare, ma poi io ma non me la puttino da me in chimica, no. Adesso se torna a chiamare che lo vuole, dico che non lo sto dando più, io non è che se a uno gli avevo regalare una cosa gli regalo volentieri, se lo conosco, ti serve, e facciamo cambio come mi capita di fare con Vannino, con i miei colleghi animatori, eccetera. Ma se uno non lo conosce, ti chiedo un microfono, già con le connessioni fatte, con tutto, cioè non è che lo devo regalare, no. Quindi se non lo vuole c'è la birra in cui, non me la frutta mai. Ma il problema sai cosa è? Io non ho detto niente, io non c'è, cioè, come hai detto tu, e tu hai detto, se ti ricordi bene, avevo quel baracchino, l'ho fatto qua al telefonino. Perciò non... mi fa dire, veramente, guarda, due palle grandi. Allora, ma il microfono. Cazzo, lo procuro il tutto, eh? E poi, trovi le scuse. Ma va che cioè, guarda, lui l'aveva trovato a un altro prezzo. Io sono andato a portarglielo perché dovevo ritirare un pacco l'attracco. E quindi sono andato per portarglielo. Capito a Domenico come eravamo rimasti d'accordo. Sono andato e te lo metto il arrangiati. Vedi tu. Fai tu insomma, c'è una fiducia di Domenico, ma quello è il problema. Ma detto no, Cla, non lo vuole più. Mi ha telefonato, non lo vuole più perché Luca l'ha attrezzato, ho fatto il microfono, qui e là, ha detto vabbè, senti una cosa. A me la fatti più nulla, no, non lo va più, è basta, e non se l'ho portato a casa, non è successo niente, ho di una fuga, sì, lo vuoi, se non serve via il culo. Ma infatti, cioè, tu l'hai pagato, io lo stai pronto a piazzare, no, non si fanno queste cose, a me non mi chiami a mio, che ne dico lui, ma sei grosso, vabbè, non è chissù. Però dico, cioè prima mi fai dei coglioni grandi e poi lo tuo compri, no, non va bene così, là. No, è come la stessa cosa che la tipo su di, che tu mi assilli, adesso, per un macchino di 10 anni, e poi, cioè, non va bene. Guarda, credimi che me sono pentito di aver dato la radio. Pentito. Vabbè, la cosa che non si fa è fatta e basta, lui, capito? Io ti ripeto, non lo conosco a lui, non so chi è, quindi che non è che mi può far cacciare le balle a me. Io non ti conosco e quindi ciao, arrivederci, buon viaggio. E che non me la fatti proprio nulla, capito? E quindi già via il culo. Quando mi ha dato un po' fastidio perché ho perso anche del tempo. E quindi, capito, tutto qua, vabbè, non c'è problema, dai, facciamo girare, avanti, doppio numero e fini. Io avevo fatto 140, non ce l'hai più. No, ho fatto di Udia, già. Stamattina sono passato da come si chiama, là? Da Giuseppe, perché in zona era da Fusaro, stavo andando, non stavo niente andando a casa. Sono andato per l'SC, no, non c'è caso, stavo lavorando oggi. Chi l'ha buttato? Cosa ho fatto? E niente. Sì, l'ho venduto, già lì giornali. L'ho dato. No, ma dato 4,40 ma voglio comprare. E la maragana. C'è una persona che lo sta dando, non so se sia al corredo. Adesso vediamo, adesso come adesso non lo compro, ma lo compro. Se non c'era Claudio, non lo so, non vorrei fare una fregatura perché la radio lì se non è messa bene, nel senso che se non è toccata va bene, ne voglio una così, cioè, senza essere scacciavitata. Va buona, avanti K2. Oh, tra poco saluto con la palla mangiare. Ciao K2, ci sentiamo, sono le 8:20. Oh Lu, io basta, non vedo più perché, cioè, l'ho venduto, cioè che prova a chiedere a Sandro anche con le chiude, cioè col nylon, capito? Con la pellicola, nuovo ripacca. Sono durato una settimana, mi sono messo alla caccia, non lo so che prezzo, ma quello che avrà. Fortunatamente ho un culo che c'è sempre qualche radiamatore che ce l'ha, non lo so che prezzo, non lo vendo più. Adesso c'è Fabrizio, credo che lo stia vendendo. Senti a Fabrizio, è lì, sei in mani sicure, non ci sono problemi. È revisionato, appunto, capito? Lo prende, però io... già quando l'atto 4:30... a Giampaolo, non è che me ne sono pentito perché ce l'ha Giampaolo, sono contentissimo, però ormai quando mi mancano quelle orarie non c'è niente a fare, io ho tenuto sempre la linea del 140, che è quella. benvenuti, l'abbiamo cambiato un po' di più. Oh, 4.40 è sempre qua. Anche se sono di vecchiaia sono sempre vite, sono sempre funzionali, furti, bella radio, sono le apparati che vanno bene anche per la 27, insomma, un po' tutto. Io lo volevo prendere di nuovo, però poi ci ho ripensato, dico la verità, perché poi se si attacca di nuovo quella lì a rompermi le palle, già che quello della mansarda l'altro giorno me ne è venuto con il radiale in mano, ho detto me ne esci due radiale e me l'ha fatta per casa. Come mai? Me l'ha spezzato il vento, con tutto che era incastrato, poi passato con bullone passante, tutto quanto me l'ha spezzato. E il vento, troppo vento, a parte vicino a casa batte un bel quando c'è il maestrale, e gli altri radiali magari frettevano di più, perché se il vento origina frettevano, invece questi qui in alluminio magari sono più rigidi, capito? E li spezza. E vabbè, ho il vento, qualche cornacchia, dice l'ho provato nel terrazzo di casa, ho pensato che fosse il tuo perché ho controllato la tua antenna e invece di 5 erano 4 e ho capito subito che era il tuo, ma non c'è nessun problema. Ma cosa non mi fa danno quello? È il problema della mantova turbo, già, io lo stesso. Una a uno non ne farà di tutti, poi ho fatto lo stesso sistema che hai fatto tu. Inettati con la vite passante e ha durato parecchio, poi quando mi sono trasferito l'ho lasciata attaccata, solo avevo comprato la Mantova 1 per via Pascoli, ho piazzato la Mantova 1 e quella era giocata a due tappeti. Capite? Anzi, il molettone mi pare volato a Lucca e avevamo cambiato il tuo nodo. Che cosa? Mollettone della Mantova, cos'è l'avevamo cambiato? No, l'abbiamo messa nuova. È vero. L'abbiamo messa nuova la terra, non mi ricordo se l'ha tirolata comunque a pezzi, che serviva a pezzi, boh, non mi ricordo. E ne ho ancora un'altra sul tetto di mansarda, di Mantova, solo che c'ha il bucato, il coso, però come radiali, come quella cosa lì, io sono burro. E avesse svitano adesso, non so, però il problema è quello, già, capito? E a me, ma quel vento che ha fatto ultimamente, c'avevo la direttiva, la 9 del metro delle VHF è girata a nord, deve essere che pressava, perché prende di punta il vento, infatti Marco mi ha detto mettila sempre di fianco, io l'ho lasciata puntata verso il mare, e mi ha piegato il moto del rotore, adesso non gira più il rotore, devo comprare il rotore nuovo, è un casino, vabbè, la mia casa, figurati, no, manco io. Sicuramente, come abbiamo fatto il buco, abbiamo indebolito, diciamo, il radiale, ma era anche incastrato, ecco, lui era solo per tenerlo fermo, per non farlo scivolare, perché poi era anche incastrato, perché praticamente abbiamo eliminato la frizzatura col coso, capito, con quella brugola che c'ha. L'abbiamo eliminata, l'abbiamo messa in castro, poi fatto il bullone passante e boccato. Tutti gli altri hanno resistito, solo uno è partito. Sì, le cose che succedono non è un problema. Lo rimetto a posto come prima. Avanti, chi c'è rimasto qua? Gianpaolo Sandro, non c'è più nessuno. No. Ma se lo metto un tantino più dopo, perché se non ti occupo dove c'è il buco. 2 centimetri. Non fa niente, già sono radiali di massa, quindi non le fa neanche se non le metti per niente, non le fa assolutamente nulla. No, male è quando su 8 ne mancano, per dire, 6 e ne hai solo 2, capito? Allora inizia ad essere un problema per l'antenna, no, non ha quella radiazione giusta, non ha quel piano di massa giusto, ma se ne manca uno non succede niente su scoppierà. Scusa, quello lì lo accorgi appena appena, te lo metti, non si vede neanche. Metti, non lo metti il suo tappino, la sua custodia, non lo fa assolutamente niente. Cosa lo fa? Non ha perso nulla, no, non ha perso nulla, c'è tutto quanto. No, quelli già avevamo tappati con l'ancolla, con caldo, e poi passato il nostro vulcanizzante sopra è fatto diciamo il tappo col vulcanizzante. Ci sono quei tappini, se li vuoi mettere, li avevo comprati al Bricco. Ci sono quei tappini, che sono quei tappini delle sedie, quelle in ferro, capito, le sedie quelle che usi in ferro del mare, eccetera, quello pieno. Ci sono quei tappini, lì c'è misura. Prendi la misura e li metti tutti i tappini nuovi. Infatti basta mettere un po' di silicone e attaccare i buchi. Allora bruci leggermente più in mano, ma per il silicone ti rientra dentro, lo esordina tutti. È una cosa fatta per sempre. No, ma il bello di quelle antenne lì già è che si possono riparare, capito? Facendo un lavoro così come hai fatto tu, ma anche la mantovata ruota lì, se te ne cadono le radiali, avevo comprate le verghette d'alluminio. E ti dirò, avevo lasciato 10 centimetri, 15 centimetri, li ho tutti tagliati a seghetto, no? E ho, perché non si spezza proprio in punta, non li so farà di uscito, e quindi ho lasciato 10 centimetri di quelli vecchi, ho preso quelli leggermente, proprio leggermente più grandi, li ho incassati dentro, gli ho fatto il buco passante e ha durato perfettamente. Sì, vabbè, ma tanto poi facendo il buco lo fai troppo largo e quindi praticamente ti mangi le parti laterali, le fai più fine, e quindi magari quello lì, magari lì è stato fatto il buco un po' più male ed era magari più fino a qualche lato e si è spezzato. Sì, perché tu vai a diminuire lo spessore dell'alluminio, è talmente fine, e quindi lo indebolisci e succede così, ma la si può riparare a voglia. No, appena va di tanto vedo e glielo attacchi. Se poi non vuoi salire che hai necessità, mi fai un fischio e te lo attacco io, non è un problema. Kappa. E tu, Lugarie, tutto a posto l'antenna, siete lì, eh? Sì, c'è anche l'altra sempre. C'è sempre un'altra anche. L'antenna adesso dovrei fare un lavoretto sul tetto. Allora mi piace sopra di me, altro che mi paga. Adesso vediamo un po', devo vedere un po' cosa c'è da fare. C'è lì entra acqua, così dopo, se il tempo è bello, non lo permette, dovrei cambiare il palo, in teoria. Adesso vediamo. Non lo so, casino, alleluia. Il tempo non permette. Devo farlo, pure ho sempre solo, un casino. Chiamare gli altri, non è che sia, cioè, non può farlo, non lo fa. Se qualcosa l'avevi già fatto, ha voglia. Vabbè, avanti, già ripeto. Ma ce l'ha. Vabbè, adesso ancora, lo compro. Dove comprare di palo, di quelli tutti unici? No, con l'idraulico. Oh, l'idraulico però ha in caso. Mi fai delle ispezioni da quanti mesi? Da 3 mesi? No, compro l'innesto per la mano, per poi la, diciamo, la base, no? Non so quanto sia. Ma poi è un casino, devo buttarla giù, l'antenna, smontarla, ritararla. Cambiare le strappe, quelle strappe che ci sono sotto l'arginite, pompa, e poi rivedere tutto già, non un filo, magari ci spetta il primo di su e se ne cade l'antenna in un casotto. Beh, e poi tu sei in basso, diciamo, la macchina parcheggiata che sta di voi. Sono quelle fatte direttamente dal coso, dal fabbro, te le fa proprio su misura come aveva fatto per mamma, aveva fatto i fieri da stelle, tutti ben fatti, con i buchi capati già forati e tutto quanto, l'abbiamo solo dovuti piantare, tutto lì. Io gli ho fatto attaccare la ringhiera, perché c'era la ringhiera, gli ho messo questa staffa che abbracciava la ringhiera, tipo la gravata. Ah, la gravata gli ha messo. Esatto. E niente. Ma ci sono tanti modi di poter fare le staffe. Io ne avevo visto una, a Portotello, se c'era la parte di sotto, c'aveva praticamente la staffa con una specie di bicchierino sotto dove andava a infilare il tubo, capito? Ma che cosa si fa di più? A me non mi vedeva, io ero vicino a lui, quindi non mi vedeva. Vedeva solo a Luca René. Poi, un altro che alle volte Luca già non ridi. Ma come non vedeva Franco, la volta siamo andati con Franco. Ha cominciato a qui Franco, poi Franco quando beve, sta sempre bevendo, basta quella magia più che è una cosa allucinante. Ma non è possibile rimanere ricca, no, veramente. Gianni era buono. Cioè, io dietro di lui non potevo starci perché lui era già di fronte e la stavo lasciando, si tende diventa un macco. Ma scusa, è chiaro che ti fa ridere una cosa del genere, ti può raggiungere un bar con un e vabbè, ma era troppo simpatico Francia, che cosa deve fare questo? E beh, brutti e fini. Guarda, tolgo è, non è molto, tolgo più l'angelo, è molto di compagnia. A me, se sapeva che era l'angelo non ci facciamo, si incazzava, proprio per in fretta, o andava a mia sorella così, Ah, vabbè, giusto, non è mico, l'angelo non ci facciamo che tammi, torna, era in fretta, non potevo passare, capito, perché andare lì era una cosa allucinante. Ho deciso di andare, come facevamo prima, dovevamo trovarlo la domenica mattina, o di sera, d'estate, ti ricordi già, si andava e passavi un paio d'ore in compagnia. Ma se tu vai di mattina, un ottimo la beauty, fratti a casa, qui e là un casino. Io figurati quando ero, facevo servizio a Montagnese, secondo lui io dovevo andare a pranzo tutti i giorni da lui. Tutti i giorni, beh no, che mi mangiamo oggi, già passo. Come si dice? Io guarda, quando a noi avevamo deciso veramente di andare a prenderlo per andare in pizzeria tutti insieme, e io che andavo a prendere a Pinangelo ce l'ho portato in pizzeria. Siamo andati là, non si è voluto morire. Ha detto, no, voi rimanete in occhio a cena. E intanto mia moglie ha fatto i funghi, ogni sera la moglie aveva ampliato, diceva che ha fatto tutta la sera proprio con me, la moglie si era andata, e poi non ha manco assaggiato. Ci abbiamo mangiato tutti i funghi, formaggio con i birri, poi me ne ha anche regalato il formaggio, te lo ricordi? Abbiamo mangiato per fare i cinghi. Cioè, dopo abbiamo di tutto, ma dietro pure il pandoro ce l'ha. Anche il pandoro, quello non mancava, quello ci abbiamo mangiato per fare i cinghi già. Quello lì l'ho portato io, quella volta, no, quello lì io l'avevo preso il portatore alla festa di San Gavino. C'è uno che vende formaggio sotto il banco, c'aveva in macchina le forme con i vermi, no? E me l'aveva dato. Io avevo aperto la forma a casa e l'avevo tolto un po', l'avevo messo dentro una vaschetta e l'avevo portato il vino e quello lì. Aspetta, ti faccio vedere una cosa. Cos'era? Boh, di sera o di mattina? No, di sera. Era verso le 10, 8 e mezza, 9. Ai, dopo cena, riusciamo a prendere il fresco. Vedo che faceva una cosa. Ma ci ha messo... No, io apri. Mi c'ho anche il pane, mi è ieri, ma no, apri. Se non mangiavo tutto, avremmo visto tutto. Però lì me l'avevo comprato, questo qui lo da un bel caro, 18 euro al chilo, no? Però te lo so già che ce l'ha, ogni anno vado e me lo prendo. Io ce l'ho preso da Mura, c'è il salumiere, quello di Via Florina, c'è il salumiere che fa il formaggio come quello che vedi, fa la crema, no? L'ho preso, ma è veramente buono, l'ha fatto veramente buono, lo fa lui proprio, lui lo vende sfuso, lo vende in vaschetta, te lo spalma, quanto ne vuoi te ne metti, ed è veramente buono. Ah, mi ha detto, è buono sì, solo che cazzo fa male, non puoi approfittare, ha per un bolestero lo mettete in bilancio, minchia è formaggio maggio, è micidiale per il bolestero. È micidiale, però non è che lo mangi tutti i giorni, non è che si trova tutti i giorni. No, io quando la settimana scorsa scorcio la zona di Usio, avevo voglia di formaggio di Usio, ho fatto un giretto lì per la campagna, ho fatto questo pastorello e c'era la mi ha dato una forma di formaggio e una forma ricotta in ustiana, piccolino, 13 euro, tutte e due, ma una cosa così gustosa l'ho trovato oggi, ho detto ma non è più il formaggio, ma sono più grandi però, e vabbè, a regalo una banadaria, a Tibasso la Mattesi, è buono il formaggio di oggi, la mare, vetti, Sì, secondo me lo compri, sì, è buono. L'oliva accompagnato col pane carasau e un bicchiere di vino col formaggio lì per non farti male. Sì, cazzo, il bicchiere di vino mi aggiunge un buongiorno, te la metti? Sì. Ma anche il vino, quello lo avrei preso. Il vino l'avevo preso sempre da lui, sempre da lui, mette una ghiera sul vino buffare. E detto, quando me lo dà, non mi ricordo quando me lo dà, prendiamo così un boccione. Ho detto così almeno lo accompagniamo con il formaggio, stasera sarebbe per carenza di darvi. Infatti ce l'abbiamo accompagnato. Era buono, era veramente buono quel formaggio. E tutti gli anni ce lo prendo, 5 euro la vaschetta se lo prendi sfuso, se invece lo prendi in forma 18 euro al chilo. Minchia. C'è anche la salsiccia un po' buona, che tu garri questa salsiccia un po' che buona. Io non trovo mai nessuno a prenderne un po', ma fanno anche buona lì, sempre sotto Osero, Santa Vittoria, San Lorenzo Valle, quelle zone lì. E poi anche nella zona di Nulvi, capito? Però minimo ve ne devi prendere, sono 5 kg, 5 kg, no? C'è la ragione che qua non mangia nessuno, e quindi poi se trovo uno magari a dividercela, 2 kg e mezzo per uno si può anche fare. No, per quanto sia buona poi ti stufa, mangiare sempre quella cosa ti stufa, devi mangiare poca ogni tanto. E non sai chi è quello che difende, mi te lo spiego subito. Tu passi da via Indipendenza, arrivi al muretto che circonda tutta la chiesa di San Gallino, fatta la curva, appena finita la curva, per andare quasi alla pizzeria, come si chiama? Non mi viene, vabbè, alla pizzeria famosa, quella che sei tu, San Gallino, lì proprio rimane di rispetto alla pizzeria San Gallino, lì si mette quello dei formaggi che vado io. Quello si mette anche lì quando c'è la festa grande, mi sembra, no? Dove c'è il circolo, quel circolo dei cacciatori, o cos'è, lì di fronte. E alla festa grande ti dice, io l'ho preso solo alla festa grande, se no non acciappo lui sul gascio. Lo porta a volte, mi dice, in mezzo a quel lato mi è capitato quelle cose, mi riserve. Ma se non glielo chiedi tu, non è a quello di dirmi, se te lo dà, dalla macchina te lo prendo. Io so che lo so, perché non vedo la festa grande che è sempre pieno di gente, comprando formaggio, salsiccia, con le perette, faghi, subisce sotto vuoto, insomma c'è un po' di roba molto buona, però non sapevo che era di quella zona lì, e allora adesso che lo sappiamo quest'anno, ve lo chiediamo, KK, Bulgarie. Guardate che computer, mamma mia, fai un po' di radio, fai un po' di radio. Mia moglie quando arriviamo in quel punto mi tira per non comprare il formaggio con il vino. A me non ce l'ho tu, mamma mia, non mi piace il formaggio. Ma abbiamo fatto, era mi pare un chilo due giorni non ce n'era più. Abbiamo fatto un po' cotto, un po' qui, un po' là, finito. Che cosa è fresco preso? Sì, semi, dai, non fresco, non già, però era buono anche crudo. E di quello da arrostire, dai, di quello che si fa arrosto. Sì, via, o una ricotta mutia, te l'abbiamo mangiata a pranzo e a cena, alle piccoline, è buona questa cosa. E la ricotta mutia, se no se tu la compri, buona quella di pinna. Quella di pinna è la migliore che c'è in commercio. Le assaggiate ottante sono salate, sono troppo affumicate. Quella di pinna è proprio delicata, buona. Lo mi chiedi? Vado a mangiare, arrivo subito. Gappa gappa. Cosa stai preparando di buono? Yut, cipolle e ketchup. Ah, gappa. Noi ieri abbiamo fatto la mangiata di carne di cavallo, tutti in greffa, a casa. La carne di cavallo in offerta via Balvenda, ma a mezzo abbiamo preso un bel po' di carne di cavallo e via, passato da tutto. Quando l'offerta così è buona, cioè, è buona. Oddio, diciamo che facciamo un bandalo, tomate, cipolle, ketchup, cheese. E anche noi spesso già facciamo delle paninate, così così. Panino quelli per me è micidiale, io lo mangio tutti i giorni, ma poi mi fa male, già sto ingrassando come un porco. Ci vuole mi due 90 kg d'ora, ho calato di 10, e 80, ci devo con 90, e me ne vado una calmata, e sto rientrando poco a pranzo, c'è bugiardi a panini, e fermati qui e fermati là, e quindi sto veramente ingrassando parecchio. Però panino, non guarda, è bello, bloccante, ui. Allora, il massimo è la calcolata di cavallo, e invece che il ketchup, il coso, la salsa rosa, pomodoro e patatine, vai, che ce n'è. Mamma mia, cosa ride, non gli ho detto quello fa, non c'è mia figlia a cena. C'è il grande pizzeria grubissimo, ma ce le facciamo con le patate fritte? No, non ho voglia di friggere qui e là, che mai vi bagnate? Bene, avrà le scatole in terra, sempre friggendo, dove lavora. Anche tu, ma... No, ma qua non ci frigge nulla, proprio. Assolutamente, la mangiamo fritti noi, come fai? Ce le facciamo qualche volta, qualche cotoletta, che non c'è mia figlia. Allora ce la facciamo qualche cotoletta, un po' di patate fritte, se no... Mamma mia, non vuoi dirmi manco un via guraria, per carità. Sarà nauseata da quando frigge. E vabbè, sono, diciamo che io ho provato a fare le spinacine, a farle per dire fritte, e farle con forno a microonde. Oh, non ho paragoni, dai, non c'è paragone, sono molto più saporite fritte. Poi, anche per dire i battocini di pesce, a me piacciono tantissimo queste pesce botture, come si chiamano, le spinacine, queste che si vuole prosciutto, questa mozzarella. Allora, per non friggere, anche qua facciamo così, le fanno a microonde, le mettono al forno, rimangono buoni, due gatto o l'altra cosa, rimangono troppo buoni, invece quando tu le friggi rimangono abbrustolite, belle, croccanti. Anche noi le facciamo al forno per evitare le frigge, però qualche volta ci fanno anche fritte e si vede la differenza. La differenza, la molta sciuga è quella quando il fritto è fritto, ci fanno i calamari qua ad Anelli, comprano quelli già pronti, li fanno ad Anelli al forno, ma non mi piace, un'altra cosa quando li butti nell'olio caldo e intendi pum. Vabbè, comunque i calamari sono buoni appena fatti, fritti e la mozzarella, non vengono, ma manco, guarda, nemmeno ripieni mi piacciono come fritti. Fritti e la mozzarella appena fatti e mangiati, belli croccanti, non devono essere cingomusi, se cingomusi non te ne mangi, non mangiati da tre parti, ma come al bullying, mi dispiace. Non li ho mai mangiati da nessuna parte così belli croccanti, belli buoni. Io ci sono andato un'altra volta, volevo portare la mia moglie. Ma come mai è chiuso? Non c'è più Battianino. Lo dice che ho sentito dire che hanno fallito. Lì c'è scritto per ristrutturazione locale. E quello lo scrivono tutti già, per ristrutturazione. Ho visto che stanno facendo lavori, perlomeno non so se lì o dietro, in quell'abitazione che c'è dietro, però c'hanno una cucina micidiale, io sono andato proprio un certo una volta a mangiare. che era Sassari di sera, ha detto io vieni, no, un attimo, io andiamo giù a allevare una cosa, e siamo andati lì, ma lui voleva la pizza, ha detto fai fare a me, portaci un bel vassoio di calamari fritti e patate fritte e un po' di salata fresca, minchia, due volte ce ne ha mangiato questo. Non so, sono un bel buone lì. La vecchia gestione che vi faceva faceva un bel buone, adesso non so come sia. E il Bassanino penso che non sta più lavorando lì. L'ultima volta scelto con Pinocchetto c'era lui, c'era, ma sto parlando quest'estate. Quest'estate, boh, forse giugno. C'era, infatti quanto me l'aveva fatto lui. C'era fatto la matta, caffè e tutto. Veramente molto molto buono. Poi avevo deciso di andarci un'altra volta, ci siamo passato per prenotare, perché era di sabato, non si sa mai, perché io rimango sempre fuori, capito? Perché fumo, quindi mi sedevo sempre fuori. E invece mi sono era chiuso, ma gli ho detto no, fratello. Eppure gente c'era sempre, c'era un compleanno, sempre quando c'erano le partite era sempre tutto bene, più facevo vedere lì musica, se volevi ascoltare musica, c'era musica dal vivo, insomma c'era l'intrattenimento anche, non capisco il perché, non riesco a capire. Oltre a Bassanino c'era un altro amico mio che riteneva la contabilità. Esatto, perché è una struttura veramente molto interessante, cioè c'è tutto, capito, per i bambini, per il dopo pizza, si può fare una partita a bowling come avevamo fatto, però non si capisce, evidentemente è grossa la struttura, è già, è grossa, lì Caropoli non te la dà gratis, quindi tirare fuori la gestione. Giostrare con tutto quello che c'è lì dentro, personale e tutto, devi cacciare un po' e quindi sicuramente per quello che hanno mollato. Però mi mancano i calamari dei buchi, dico la verità. Io guarda, lo so perché chi li consegnava è un amico mio, in prima persona li consegnava e mi ha detto prendono calamari di prima già, i migliori che ci sono. Facci tranquillo, li sanno cucinare bene perché il cuoco è bravo, facci tranquillo, sono andato, guarda, non me ne sono pentito, dal giorno che sono andato ci ho portato mia moglie, ci ho portato quello di fronte a casa, siamo andati in groffa con amici, sempre buoni. Costa, è poco posto, costa di cucinare le mani, mamma mia. Cosa costa? Ah, tutto le, allora praticamente tutta la porzione che c'erano, calamari, patatine, già lo sa Claudio, che non ce la faceva a mangiarti tutto, arrivava sino alla frutta in un vassoio grande grande che ce la ci mettevano tutto, 12 euro costava, più la roba da bere, vabbè, spendevi 15 euro e mangiarmi come si deve, se vai in pizzeria ti prendi una pizza a frutti di mare, già stai spendendo 12 euro. Già è buono allora, 12 euro vabbè, vabbè, andare. Fame ci vuole mangiare, fame, non è che costa. Adesso posso modulare, ancora devo 50 watt. Si levano un po' tutto. Ci hanno ripartito tutto in conto con la dall'altra parte. Partitore in corto, ciao Antonio, buonasera. Partitore in corto, non ti ho capito. Guarda già, se ti vuoi avvicinare molto a quei calamari, proprio a quella frittura, a quel... Io vado al produttore se da Claudio, da Garibaldi, dietro dove c'era prima il comando del vigile, ma lì. Sono veramente buoni anche lì, infatti quando vado al produttore io vado sempre lì, piatto composto, calamari e patate fritte. E sono molto buoni, evidentemente li comprano freschi lì al produttore, se non lo so, però sono molto buoni. Ma io guarda, ho voglia di pescare quelli freschi, ci devo andare, ero in figlio, non ci sono andato perché c'è troppo vento questi giorni. Adesso non fa, c'è troppo vento, freddo, non ha tutti lunga il freddo già ti copri. sono sempre da baracchino, mi ha telefonato il capocollume, dove avevo dei problemi, quando parlava baracchino si spegneva tutto. Oggi ho portato l'impianto e c'era un angolo che era a posto, l'altro angolo del condominio è dovuto incorporare, perché hanno toccato hanno aggiunto un cavo, hanno toccato i partizioni, quindi come parlava il baracchino c'entrava dentro, non si vedeva più niente. Quindi siamo andati a centro capo condomini, oggi sono andato da giù, io ho detto a 4, ho detto, non ti permettere più, ho speso i soldi per il condominio e nessuno mi ha detto grazie, adesso mi giri pure le balle. Ho visto che gli si è trovato i cavi tutti come della parte destra del condominio, non gli mi ha dato il conto, oggi mi ha chiesto scusa, ma non male. Ma può pure pagare, Marco, ma la prima volta succede, deve pagare il lavoro, di solito sempre gratis, con il cancello elettrico, eccetera, eccetera. Io ho detto, sono libero di nessuno, quindi se c'è qualche problema, ho detto, mi chiamate cortesemente, gli ho detto, se no non faccio più un cazzo a nessuno, ho detto. No, non ho compreso, se un lavoro extra, lo vuoi, io sono capace, se lo faccio mi paghi. Io sai quante volte qua, ad esempio, quando si è bloccato il galleggiante del vascone, mi hanno chiamato subito direttamente, io poi c'ho l'affondamento a casa, quindi c'ho tutta l'attrezzatura dentro, ci arriva una prossima grande per mollare il galleggiante perché è enorme, l'ho mollato, l'ho fatto, sono andato al carbone, ho comprato il galleggiante e tutto, c'è l'amministratore, dobbiamo andare a casa per lavoro che hai fatto, no, non voglio niente io. Quando è passato il telefono mio, io che non ho passato. E mi dico, se li ho. Tu dici anche a te, ma è passato la metà dell'economia, c'era il foglio sotto. E perché non eri a casa? No, io c'ero a casa quando non ha suonato nessuno. Io ho telefonato e mi ha detto, no, non siamo passati apposta. Il lavoro che hai fatto non hai voluto niente, quindi per questo mese non paghi la tua economia. E io dico, vabbè, una mano lava l'altra. Ma qui c'è invece una cosa. Ma mi ha telefonato, dice, per colpa di quell'antenna che ti ha fatto, gli ha detto in pratica. Mi ha chiamato a scuola, ha detto, ce l'ho già girato, gli ho detto, mi contiene molto, gli ho detto. Mi dice, vabbè, non dice la fetta, eccetera, eccetera. E ti ascolta, ha detto, io vedo a casa me tranquillo, per me gli altri non mi frega niente. Allora dice, fa qualche cosa, mi ha detto, perché sono tutti quanti incazzati. Ah, gli ho detto, vabbè, gli ho detto, mi ha detto così. Questa sera ho dato un'occhiata ai produttori dell'altra fiancata, perché mi sono accorto che erano tutti quanti al capolavoro, hanno aggiunto 4 capi in più in pratica. Come l'hanno toccato c'erano i capiti in corso, ho preso stevato tutto contenti, ma con le televisioni di casa di niente addirittura, quindi c'era, quando parlava la baracchina c'era sino non vedo più niente, gli zia, capito, battavo due capiti in corso, poi ho fatto tutta una fanculetta, detto, mi sembra strano perché c'era un antenno per noi e ci ho messo Marco l'anno, gli ho detto c'è ma molto strano questo, allora poi ho detto non si è entrato acqua e allora e poi lavoro, la sera manuale, poi l'ho fatto, l'ho fatto, mi è tutto a posto. Ma dice, venuto a casa, te, questi sono fatti netto. 40 euro, ma è detto, ma era male, io ho detto, era ore. Sto già andando bene, sulla mese umane, vai già. Sì, io sono vado a preparare a mangiare, là. Io mi preparo il coso mio, loro si mangiano il panino, io non aggiungo, mi faccio qualche cosa. Stanno mangiando anche gli spagnoli. Non io pranzo, ci ho mangiato un po' di pasta e poi mi devo bucare a maiato proprio, a proposito dei calamari, proprio sono crollato, mi sono fatto le 5 passate. Va bene, dai, allora ci andiamo a mangiare, che sono le 8:20, al limite ci sentiamo dopo, lascio acceso qua su 10. Buonasera a tutti, buona cena, saluto anche quelli che sono in ascolto. Non per me, se ci sei, sentiamo dopo. Ciao ciao a tutti, dai, buona cena. Ciao. Ciao, buona cena. sentiamo con quella tanto gli ho ordinato la penna e la pizza, quindi sta arrivando subito, ci andiamo dopo, già pagate condominio. Alla voi. Ciao, come ciao.